sì. Ci andiamo in elicottero. Com'è? Ti piace? Prova. Guarda, uno, due, tre. Va bene. Guarda il mio segnale invece, si è cambiato qualcosa. Ehi, qua, sono ancora giù io, Qua è... ti posso dare 9-10. Ma sono con le... il Bau Bau. Ehi, il Bau Bau, no? Non mi interessa il segnale Bau Bau, mi interessa il segnale di una radio seria. Un bel si sente l'avvento, no? Sì, qua sì. Ehi, vabbè. Un avvento, però. È una bella bestiolina, Qua non so neanche come ne esce l'ecco, figurati. Oh, ora, ora, c'è? Perché l'hai chiuso, lascialo stare come era prima. Ah, l'ho trovato. Lascialo come era prima, stava girando bene. Cazzo, non vai la voce di Walter, dunno. Quello è il respiro, capito? Le fa mancare l'ecco. Ora, così va bene? Via, non toccare, va bene così. E cosa stai usando? Con cosa sto andando io? Ehi. Con 440, con cosa sto andando? 440 è amplificatore inserito, lo sto provando, le ventole si sentono a 1000. Vabbè, tu glielo vedere. Guarda, vabbè, tocco. Sì, la voglia. Vabbè, sono con 5 watt però, 10 watt modulati, 5 di portante, dai, 10. Ora, ora, 5 di portante, 10 modulati. Vabbè, qua vai da 9.5 a 9.10, quando attacchi sei quasi 9.30, ma poi oltre non so se va. È una bella bestiolina, Già va bene, già va bene. Cos'è, il 22? No, l'FL2100. Ah, pensavo che era TL922. Adesso l'ho provato, posso darle anche 40 watt d'ingresso, 50 watt d'ingresso, non c'è un problema, però lo sto provando piano piano, non ci sono mai dubbi. Ho capito, Va bene. Ah, ecco, questo è il bip. Sì, già viaggia bene, non ho voglia di farti sentire il mio, sennò è uguale a quello. Preciso identico, non cambia assolutamente niente. Aspetta, andare un attimo. Vai. So, per poco non mangiamo la pizza stanotte. Minchia. Mi ho dimenticato il forno acceso, meno male l'ho spento in tempo. Ah, ma perché la stai facendo tu? I panetti li porterà l'aria già pronti, allora. Io li tiro e mi preparo già la base, no? Stasera si condisco. Buonasera. Ho capito. Va bene. Ciao Gianni. Gianni, ma tu Smitter c'hai? Guarda il segnale a vedere quanto ti sta arrivando. Aspetta che prendo gli occhiali. Guarda a vedere. Devo fare una prova. A ver se esce questa cosa. Vai qua. Guarda così com'è il segnale. Qua mi indichi, qua mi arrivi a 6. Smitter è mio permettendo. Non mi interessa, 6 sta segnando adesso. Guarda quanto segna adesso, Quanto sta segnando adesso? Adesso sono passati i 6 di un'attacca. Ma c'è proprio uno Smith molto avaro tu, Guarda, se un'attacca qua è già un bel, quindi ritieniti fortunato. Vabbè, vento le senti? Disturbano la modulazione, penso di no. No, è assolutamente sopportabile. Si sente un leggero soffio sottofondo, ma non disturba. Soffia reddo, Ma dove il vento, che con lo schiaccio il PTT entrano in funzione, la massa delle varie. se no senza schiacciare i PTT manco si sentono, perché aumenta il volume della ventola per far sì che raffreddi l'amplificatore, capite? Claudio. Oi. E da te quando arriva qua? La roba è da lì. Sì, da qua. Allora, acquisisci 9 più 10. Sì, va bene, eh. Non è stata la giornata cagata, eh? Se tu me li gioco da noi e arrivi da leva. Se ne potevi stare a casa, eh. Vedi, qual è il problema dell'erba, hai capito? Come sempre lui ci fa via. Tagliavo l'erba negli impianti, tutto, me li pulivo, poi troppo due giorni pioveva. Ah, va bene, se no mi piace, aspetta. Ora. Amplificato lo stesso? No, va bene, gira bene quello, non c'è problema. Ma è l'eco che mi scoccia a me. Lo puoi chiudere, chiudilo tutto. Tutto chiuso è così. Non ce n'è ecco, infatti, c'è solo il bip e basta. Bene, bene, va bene. La radio, ti ricordo che è buonissima, sembra amplificata, perché quella radio come la mia c'ha il doppio modulatore, quindi spinge molto. Va bene, dai. Sono entrato giusto a vedere come andava. Quindi 9-10, mi hai confermato? Yes, 9 più 10, radio super, 5, perfetta. Senza problemi, sia con l'eco che senza l'eco, capito? Va benissimo alla grande. Va bene, ciao, riprenditela. Ehi, io sono qua, dai. Avanti già. Ascolta, vabbè, visto che stiamo facendo questo accrucchio, ma l'offerta che mi avevi fatto è ancora valida? Quello spezzone che avevi di RG58? Certo, però non ho misurato quanti metri sono, capito? Ho visto che ce n'è un po', per quello ti ho chiesto quanti metri orientativamente sono, capito? Certo che l'offerta è valida, io se dico una cosa te la do. Però non so esattamente quanti metri sono, devo salire su con la bindella, con il decametro e misurarlo, ma ci dovrebbero essere più di 10 metri. Guarda, ho fatto una misura con quel metrino scorrevole, più o meno siamo intorno ai... vabbè, buccia e tutto siamo intorno ai 12 metri qua. 15? 1, 2, 12, una dozzina. Sì, vabbè già, ma quando inizi a girare il cavo, farle magari un ciocco, una cosa, girarlo dove c'è il baracchino eccetera, qualche metro in più ci vuole, capito? Sì, qua, li ho misurati più o meno a chilometro, siamo intorno ai 12 metri, poi questo è quello che ho provato a misurare stamane. Ho provato a stendere una trasmissione di capo giusto per avere la comparazione e poi piano piano me lo sono misurato così a occhiometro e insomma siamo esatti siamo intorno ai 12-13, dai, una cosa del genere. Già vabbè, adesso guardo domani mattina, dai, e poi ti faccio sapere, ma in linea di massima ci dovremmo essere, così ci vediamo e te lo do, capito? Ma mi faresti una grandissima cortesia per il momento, perché veramente adesso insomma ho un po' di problemi da risolvere, quindi accetto volentieri la proposta. Non ti preoccupare, tranquillo, già ce l'hai il cavo, ti ho chiesto anche se c'hai il PL da mettere nuovo. Ah, il PL, quello che ci ha cacciato, è buono, sì, è abbastanza, è in buone condizioni. Vabbè, se quello è nuovo, tanto sopra devi saldare, non come hai già fatto, calza con calza, molto stagno, poi lo vulcanizzi e saldi il polo centrale. Sì, guarda, praticamente quando ho fatto la modifica stamattina l'attacco all'antenna non l'ho neanche toccato, sono intervenuto da un'altra parte del cavo, capito? No, mi sugavo un'idea di staccare tutto giù, dall'antenna tutto e buttare via, ti recuperi solo il PL e metti il PL nuovo nel cavo che ti do io, spelli e fai il collegamento nuovo all'antenna, cavo unico. Guarda, adesso ti dico la verità, avevo praticamente, mi sono ritrovato qualche metro di RG59, lo so che non è il cavo suo, lo so assolutamente, è un cavo video che si utilizza per l'installazione in video, siccome, vabbè, ne avevo qualche spezzone perché mi serviva per collegare la videocamera, insomma, a degli altri apparecchi, ho voluto fare l'esperimento, giustamente poi chiaramente l'RG59 ha 75 ohm di impedenza e quindi quello era già previsto e già calcolato che mi succhiasse un po' di potenza. Comunque era giusto a livello proprio di sperimentale, insomma, capito, quella di provare questo spezzone di cavo. No, quello devi togliere già, perché appunto sei ti ha sfasato l'impedenza, è per quello che stai perdendo segnale. Non tanto potenza, ma stai perdendo segnale, capito? Per quello te lo sto dicendo. Vabbè. Allora, guarda la radio invece da questo passaggio così, senza il processore, vediamo se cambia qualcosa. È sempre buona la radio, va bene o è troppo bassa? Si è abbassata l'intensità, praticamente è come se avessi tolto una preamplificazione. Io ho tolto il processore, beh. Ho tolto il processore, sto andando senza processore. Sì, a livello di volume si è abbassata rispetto a prima, è chiarissima, comprensibilissima, però si è abbassata. Molto si è abbassata? Vedi un po'. Allora io quando mi dicono che si abbassa non mi piace, devo essere sempre alto. Così è il suo. Vabbè, l'importante è che non dia fastidio la ventola, poi già va bene, dai. Ma personalmente a me non mi dà fastidio, quindi cioè, si sente un soffio sottofondo, ma non è assolutamente fastidioso. Un soffio è due ventole sono che stanno girando quando schiaccio la portante. Ma ventoline tipo computer, quelle nere? No, ventoline è qualche tuo baracchino. Dico, sì, come solitamente, come sono? Tipo quelle che montano i computer, quelle nere da tipo 6-8 centimetri. Mi sto dicendo che sono grandi quanto il tuo baracchino le ventole che sono fuori di dentro questo amplificatore. Sto usando l'amplificatore a 2 kW. Ah, adesso ho capito, sì. Ho capito. E ne ha addirittura 2. Sì, ne ha due. Quando schiaccio il PTT aumenta di velocità. Capite? Non è questo il rumore. Quando non schiaccio il PTT rimangono silenziosissimi. Quando schiaccio il PTT aumentano di velocità per far sì che raffreddi prima l'amplificatore, capito? Sì, sono collegato a un sensore di temperatura e quindi quando schiacci automaticamente aumentano le velocità. Si conferma. Chi era, Walter o Tino quello di poco fa? No, era Tino giù da al QRL, già entra più tardi. E lui cosa c'ha, la canna da pesca montata? No, lui c'ha la mantova. Ok. No, perché adesso l'ultimo passaggio che ha fatto era bello chiaro e forte. Sì, sto usando un baracchino, aspetta un attimo. E non è così fastidioso, l'ho detto. Già 9,5 di zia Matru Gosu. Avventola. Se si sente, pazienza, ma intanto non è che volevo usare, è giusto perché era tanto non lo uso e tu esci, lo proviamo che oggi c'è più fresco, capito? Così lo proviamo. Ma stai usando un baracchino o il K? No, sto usando il K Kenwood 440 con un amplificatore, diciamo, HF quasi suo, ma non è della Kenwood, ma è della Yaesu. Ma in sostanza questi qua cosa hanno rilevato praticamente facendo le radio, lo standard della Kenwood? Come lo standard della Kenwood? Non ti ho capito. Dico, la Yaesu cosa ha ereditato? Lo standard della Kenwood con le radio? Beh, ha comprato esiste più. Come casa costruttrice non esiste più, capito? Ma per gli apparati HF stai parlando solo degli HF? Per i sorrici trasmettitori, UHF, UHF, HF. Per quanto riguarda la parte audio, dai, quella che riguarda te, sicuramente è ancora in gioco. Non lo so, pulisco. Bene, bene. Stamattina su eBay stavo spicciando e c'era un... dove? In Italia mi sembra. Stavo guardando un po' di cose riguardo il CP e ho visto che c'è in vendita un President, se mi ricordo se è Jackson o Lincoln, a buon prezzo. President o Lincoln, aspetta che tolgo sta cosa. President, e quanto il prezzo? No, palla mia, dovrebbe essere un Jackson. Non mi ricordo adesso se è all'asta. Mi sembra di aver visto 80. E già va bene. Aspetta che stacco proprio, cazzo, mi sta arrivando una vampata di caldo. Poi ho beccato un canale sui Baby di questo radioamatore che c'ha un po' di strumentazione che sta vendendo. Poi ho visto che c'ha parecchie antenne. Ma giusto per sbirciare, perché a mano faccio un franco. Ho visto che c'ha un po' di antenne varie, sia per CP, HF, insomma, veicolari, c'ha un po' di tutto. Tutta roba usata, testata. Mi sembra che il tizio sia uno abbastanza competente. Ho visto che c'ha parecchie antenne in vendita. Aspetta che mi devo regolare nuovamente, ho staccato tutto. Allora, quindi lo volevo lasciare così, adesso mettiamo in scala 200 e mi regolo. Ecco qua. Qui siamo solo con la radio KK. Quindi sono sceso di 10 dB. sì, sei sceso di 10 dB. 10 dB KK, purtroppo. Beh, cazzo, mi metti un barilotto, mi aggiungi un cavo da 52 ohm a 75 ohm. Non è che te lo devo insegnare io, non già. Lo sai, la perdita lì. No, ma ero consapevole di questo. Ripeto, lo sapevo già da sul nascere, era giusto per fare, siccome l'antenna adesso l'ho alzata parecchio, adesso praticamente l'ho messa in punta al tubo dove ci sono le antenne TV, capito? Quindi poi il tubo l'ho fatto salire tutto, sarà un tubo di 2 metri e mezzo, 3 metri, la tubo che è in punta, ho allentato le staffe e tirato tutto su. Chiaramente poi era impreventivo che il segnale calava. Beh, un certo calava, ci promettiamo. Non c'è bisogno di metterlo a manetta. 10, 20, 20 watt, dai, va bene. Ottimo per la truppa. Allora, qui senza processore, e qui col processore. Ora, eccolo qua, vai. Così, questo lo lascio stare attaccato ma spento, e lo facciamo riandare magari un pochino. Va bene già. Ma lì bisogna vedere, lì bisogna vedere, è chiaro. Lì. Se vedi, se cosa, come si dice, adesso vediamo, dai. Cioè, me ne occupo io di colaniera, se lui si mette la energy, quella lì se non la usa te la faccio dare. Così metti quell'antenna lì, altro che chissà della macchina, Sarebbe, non ti ho capito, Carlo. Hai fatto il nome di qualcosa? Ho detto, Daniele deve cambiare l'antenna, lui sta usando una Ringo, ok, quando cambia l'antenna, glielo dico se te la dà quella. Ah, ok, adesso ho capito, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, capito il nome all'inizio. Lui adesso sta usando una Ringo, lo deve mettere Energy appena arriva, capito? Quando arriva e cambia l'antenna, già glielo dico io, vabbè. Così ne togli quella della macchina e metti quella lì che non ha radiali, però è un'antenna che funziona molto bene, capito? Almeno sia a posto col cavo nuovo, tutto nuovo e via, poi baracchino, si vedrà cosa usare, per il momento già va bene quello che stai usando. Beh, ho visto che insomma è abbastanza pulito, non splattera, non insomma è abbastanza selettivo, dai, anche se è vecchio è abbastanza semplice, per adesso non mi lamento. Cosa devi lamentare? Il convento lì su bassa, lì su idratare, caro Gianni, purtroppo quando non c'è la possibilità di fare le cose, non è che puoi stare a mattare la teoria del vetro, quello passa al convento e quello bisogna fare. Guarda, per quello che è va benissimo, cioè, visto e considerato con insomma con tutto quello che ci ha attaccato adesso, anche l'antenna sta facendo la sua sporca figura, diciamo, dai. Certo la fa la figura, la voglia che la fa, alla grande. Ma dovrebbe essere un assirio veicolare, se non sbaglio. Sarà alta 1,80, vetro rescia, sarà la molla con la classica molla veicolare, dai. Stamattina più o meno ho dato una misura così veloce, siamo intorno all'1,80. Ma l'antenna che ti usano tu? Sì, l'antenna che ho, l'antenna che sto usando, sì. 1,80 m, no, ma quella là è molto più grande, poi sia 5 metri. Cazzo. Oia. Tutto una cracuba. L'antenna di macchina non sono così. Ma l'antenna a casa, la mia è 7 metri, quindi quella è un po' più piccola, però fa il lavoro che deve fare, non è un'antenna di macchina. Daniele arriva a 9,15 qua ed è messa per terra, quindi siccome so, perché si vede dal segnale che tu c'è una buona posizione sicuramente, se metti quella vai molto meglio. Senza ombra di dubbio, sono sicuro che rimettendo il capo suo, senza cambiare l'antenna, sono sicuro che già come l'ho tirata su di un bel po', già sono sicuro che senza cambiare l'antenna migliora sicuramente. Lo so, sicuramente migliora, ma non sicuramente, è un dato di fatto che migliora, perché è così, capito? Aspettiamo adesso, non avere fretta, uno quando ha fretta poi fa di giro gaggadi, detto in italiano, piano piano. No, guarda, non sono frettoloso, tranquillo, non ti preoccupare, sono parecchio tranquillo, quindi non mi sto mettendo a fretta qua. Infatti non ce ne vuole fretta sempre le cose, vanno fatte piano piano. Adesso, poi vabbè, una volta che sarà tutto a posto, magari riesco a rimediare un adattatore e voglio provare anche a attaccarci il portatile una volta che è a posto l'antenna. Un adattatore, che cosa vuol dire un adattatore? L'anno 38 il portatile c'ha il VNC, capito? All'attacco VNC per l'antenna sua. Non ho capito. Capito, ti ho. Va bene. Dammi un minuto, o già. Devo andare in cucina, un secondo solo. Muoviti, sono la pizza, non fa. No, devo. Tengo via per bruciare, sì. Avanti, Tino. Gianni? Avanti. Ciao, Tino, sono. Mi dai un controllo così? Guarda amico mio, io ho lo smitter che è tutto a contusoio, quindi prendilo con le pizze. Vabbè dai, non sono nel mio QTH, quindi giusto per vedere se c'è cambiamento. Guarda, qua al momento sei 5,5-6 oscillante. Oh, ora, e così invece? Così ti sei ammazzato? Di quanto? Qua sei 4,5 oscillante. Sì, ma non lo puoi tirare molto a quella radio, quella funzionano bene con pochi watt, già spinge lì. Ma sto guardando così, quanto ti arriva a te? 19. Lo riporto come la prima, guarda, è così? 15-9-10, così deve rimanere, ma stai usando il Galaxy. Quando si aumenta? Ora. Appena, niente di che. Allora lasciamo così, dai. Così devi lasciarlo, così già spinge lui che c'è picchi positivi e oltre 9-10. Se non se li mangia i picchi, capite? Sono fatti apposta, anche la mia la uso a 3,5 e mi dà quasi 20, figurati. Eia, però siccome qua stiamo scoprendo piano piano certe cose che voi umani non potete nemmeno immaginare, quindi volevo sapere da così a poi com'è? Piambacci da 9,10 a Santiago 7. Buono, va bene. Vabbè, mi ritiro le cose, dai, ciao. Maio, vai dini da Anchivi, lascia la PD a Ciccio Bello mio. D'accordo, dai, ciao. Ciao. Fatti sentire dopo, Kappa. Ciao, a più tardi. Vedi, quella che sta usando T non è una radio modificata, capito? Come quella che ho io, praticamente all'interno c'è una scheda a corte che agisce sul modulatore, quindi tutto un lavoro particolare. Bene, Meda, sì, adesso sentivo parlare sempre di Two Colt e ho visto più o meno di cosa si tratta. E come i pistoleri, capito? Come i sceriffi. Noi abbiamo le radio dei sceriffi, Colt. Io e le macchine, antilina lampati. Sono 87 anni, l'armadio mi è costato 400 euro, modificato, lampati. Un baracchino che costa 150 euro, normale. Più la modifica 400 euro. Cosa hai fatto? Ma invece di aumentare te la bassa, Santiago 7. Vero, allora, abbuffonando, la bassa. La messa è scesa a 4. Mi sembra un altro baracchino. Che... ma sul colpo microfrattavo non ce ne puoi mettere. Escono da schifotti. Sì, ma voglio capire, su questa è la stessa radio, è attaccato 747 invece di aumentare e abbassa, come te sta cosa? Io provatemi, 7 watt devi dare mia collegnare. Questa radio c'ha mio padrino, cazzo, boh. No, 1500 o 2500, su 2500 ne funzionano 500. Hai capito dove è Tino, quanti baracchini ci sono? Eia. 2500 baracchini. Baracchini, poi di base, ce ne sono 10.000. Ne ha una vasta gamma, che sì. Beh, un collezionista, vasta gamma. Questa gamma è dire poco. Se ne ha una casa da 100 metri quadri, quanto sarà 200 metri quadri? Cioè, va a casa, va a portare baracchini, così è. Pareti non li vedi tu, pareti non ce n'è, pareti non li vedi. È tutto pareti, sono tutti scaffali, armadi, scaffali, tutto messo, tutte le 5 pareti sono tutte tappezzate a baracchini, però, baracchini d'alto livello, di basso livello, di tutti i tipi, tutti i tipi, a livello mondiale. Caspita, non lo sapevo. Bellissimi, molto belli, costosi a suo tempo, costosi anche adesso. Beh, un collezionista è collezionista. Tutti. Se di un baracchino ne hanno fatto 4 serie, lui c'ha tutte le 4 serie. Di un base, 5 serie, tutte le 5 serie. Tu immaginate quanti so. Già me lo so che immaginate. Tipo, vabbè, adesso mi è venuto in mente un sacco. 5 anni fa, quando entravo da Antonio Scarpa, su a Non è Sole, che si entrava, andavo sempre a curiosare nel reparto TV, audio video, che era una serata di impianti hi-fi, gas, amplificatori, impianti, di tutto. Già veniva poco di roba. Ma negozio manca paragone. Ci vuole un capannone a mettere tutta quella roba. Caspita, buccia e tutto così. Quante radio pensi che abbia? 10.000. Dai, esagerato. Ma sta scherza. Ma non ce n'è in tutta Italia un collezionista così come Walter, ma stai scherzando. Ho detto che di ogni baracchino c'ha 5 serie, se ne hanno fatto 10 serie lui c'ha tutte 10 le serie. E così, non ce ne sono parecchi. È uno stabile adibito dove lui ha la sala radio, dove ha tutta la collezione dei baracchini di tutto il mondo, tutti quelli che sono usciti nel mondo. Adesso però hai detto Walter, non Tino. Dove c'è Tino, vedo. Ah, ok. Bene, adesso ho capito, no, perché siccome ho sentito il nome di Walter, guarda, non riuscivo a capire se tutte queste radio ce l'aveva Walter o Tino. E anche Tino già ne ha. Tutti ne abbiamo, i vecchi CB ce l'hanno tutti, io ne avevo una quindicina, ma a livello così hobbistico, chi è collezionista come lui, ce li ha tutti, quelle serie. Adesso ne ho solo 7, gli altri le ho tutte latte, sono sempre vintage, tutte, sto parlando di radio vintage, stai attento, non baracchini di ultima generazione, qualcuno ce l'ha, insomma, sempre vintage però, più recente, ma quelli sono belli perché sono veramente radio di alto livello che hanno fatto la storia, capito? Marcolino Condor, che radio, che baracchino c'ha? Tu lo sai? Marcolino Condor c'ha un gatto siamese, poi c'è un gatto persiano, forse anche un altro gatto che è incrociato tra una persiana e una serranda. Un gattaro. Non ci siamo a quello conto. Due baracchini, va. Io sto parlando di gente seria, gente che ha speso una barca di quattrini e continua a spendere perché è un collezionista, ti ripeto. E non solo di radio, di tutto, anche di microfoni. Microfoni avrà, cosa ti posso dire, un migliaio. Tutti di vecchia generazione, microfoni che hanno fatto la storia, tutti, tutte le cose, non solo CB, anche a livello amatoriale, anche a livello UHF, UHF, tutto, è un collezionista, collezionista, no? Un collezionista che fa la collezione di francobolli, canto di Bove, secondo me, e dove va la collezione di baracchini. Non lo sapevo questo, è un dettaglio che non conoscevo. Adesso che lo so, so eventualmente se mi servono informazioni a chi chiederle. Guarda, non ti conviene chiedere niente, perché intanto non sa manco come si accendono, capito? Di quanti ne ha. Ogni tanto si mette, ne prova qualcuno, ma ti ripeto, ne ha talmente tanti, io non sei a vederli adesso. Quindi lo so, anche stamattina ero lì, ma lui c'è, non è adesso a vederli, lo so, da sempre. Quindi è così, va bene, ci vuole il posto, ci vuole la voglia, ci vuole il soldino per poter fare una raccolta del genere, non è che non vai in uscita. Quando tu inizi a comprare una radio in Sud America, negli Stati Uniti, qui e là, devi avere soldi per togararla, per comprarla, per pagarla. Ci sono radio d'epoca che costano anche 500-600 euro, non pensare che costino una lira. Insomma, dai, unisce l'utile al dilettevole, praticamente è come se stesse facendo un investimento, dai. Un investimento di come siamo abituati noi a conoscerlo, dai. No, lui l'hanno investito, non è che fa un investimento, lui l'hanno investito a piccolino, per quello è così. Bene, sarei curioso di conoscerlo. Meglio lo conosci, sai quanto mangia. Non invitare mai né a pranzo né a cena, evitalo, lo saluti, capito? È 2 metri per 1,50. Tanta roba. Uno di quei tipo frigorifero, di quelli in acciaio inox, alti alti. Infatti c'è il nome attivo vecchio di quando l'ho conosciuto io 40 anni fa, capito? Diabolic, che era magro magro. Adesso si potrebbe cambiare il nominativo o chiamarsi Bud Spencer. Bene, Meda, quindi insomma, è un tipone. È troppo tolo, non perché è mio padrino, non ce n'è per nessuno. È un centro lode in tutto. Capito mi hai? È un centro e lode. No, facciamo una vita alla radio, alla sua esperienza, alla... a tutto, perché è quella la sua passione, capito? Così è, e già va bene, adesso mi sta ascoltando, vedi? Si sta tutto dischi, away. Quindi sta origliando, dici? Allora, vecchione anche. Ma sai che mi rullo una sigaretta? Già, rulla neanche una mega. L'altro giorno ho fatto una tutta la ridoccia, pensavo di aver messo il filtrino, e invece il filtrino non veniva, giù mai mi si entra in gola. Attento, CR7, Ronaldo, succedete a vogliamo allungare oggi. Eccomi, ma a proposito di partita, non dovevi andare a vedere, non dovevi scendere a Cagliari a vedere la partita? Claudio? Ciucciù. Ecco Bala. Buonasera. Buonasera. Come andiamo? Con le scarpe, tutta scarpe, come siamo? Ma io sono in pigiama e in ciabatte. Scappa? No, io già sono vestito. Vado a lungare che mi sta girando i cosi. Ogni tanto viene a chiedermi caramelle. Cose, brioche, a te la pizza si mangia. I cani mangiano tutto, non sai, mangiano tutto. I cani mangiano tutto, più ne dai e più ne vogliono. Allora, buonasera Gianni, ma lo sento più basso oggi, cosa ha combinato? Ho già combinato, ha fatto uno spezzone. Però già lo sapevo, lui per mettere più in alto l'antenna, però lo spezzone da 75 ohm, quindi sta perdendo l'impedenza, con quel pezzo di cavo che ha messo gli si è abbassato il segnale, ma adesso già mettiamo il cavo nuovo, già glielo do io. Mettiti il cavo nuovo Gianni, così almeno è l'antenna anche nuova, dato che ci sei, la posso stare con questa antenna di macchina, meglio l'antenna nuova. Appena possibile, come pazienza ci vuole, pazienza, già arriva tutto, dai. Sì, già andava, meglio così. Di moto si è abbassato il segnale, altrimenti. Arrivavi 9, adesso arrivi 5, non lo so. Caspita, croc. Va bene, dai, tanto è ancora per poco, per adesso va bene così, non ho voglia di scendere tutto, cazzo, poi fare il lavoro due volte. Adesso sta un attimino così e poi vediamo. Sì, stare così adesso, che dici? Già ti sento, prima di 9,10 a me adesso sei 9, la giuditta è messo 10 dB, 10 punti S è perso. Ma io ho preso anche una ragazza così, aspetta, fammi controllare il cavo, adesso domani mattina, non voglio essere salire su, domani mattina salgo, guardo quanti metri ce n'è e così poi ti chiamo e te lo metti nuovo. Cappa, c'era qualcuno che ti ha sovramodulato? A me? Chi è che ha sovramodulato? Avanti. Io ti ho sovramodulato, ma tu non potresti essere a Cagliari. Gianni, cosa ti ho detto ieri? Che non lo lasciavano entrare a Cagliari. L'hai visto, così è stato. Ciao a tutti. Guarda che se attacco ti crepo e fai da bravo. No, non ce l'ho andato, se non glielo sta bene. Oh. sono andati loro, io non sono andato Giulio. Ma non avete detto che ho fatto? Ma cos'è il biglietto giorni fa? Ma anche il biglietto non si può dare, è andato mio cognato con loro, ho dato a lui il biglietto, siamo andati soli. Ah, ecco. Perché avete trovato, perché ha portato il ragazzo laggiù, però per quello non ci sei andato? No, ce ne abbiamo andato bene, già un paio di giorni, pensavo di poter andare, però oggi avevo necessità e quindi sono rimasto a casa, pazienza, sono andati loro, adesso vediamo, mi do come devono chiamare, ma non c'è il tempo brutto, stava piovendo, perlomeno, durante il tragitto stava piovendo. Sì, ma durante la partita non piove, durante la partita non piove, quello l'ha detto Matteo, insomma il meteorologo del telegiornale, l'ha specificato proprio, allora la partita non dovrebbe piovere a Cagliari, qua non lo so, ma a Cagliari no. Loro erano in strada, ci siamo sentiti e diceva stava piovigginando, non pioggia pioggia, là, però stava piovigginando. Avanti Antonè. Ehi, ciao Giulio Savuzzoni, ben sentito. Ciao Antonè, e beh, ti dico come sta andando? Beh, ce l'ho, ma c'è di notte di solito, parlo con Giuseppe. Ieri l'ho acceso, non stavo mangiando la pizza, figurati. Ho parlato un po' con lui e poi ho chiuso. Poi sono saltato all'annata. E adesso domani mattina devo svegliare presto per andare alle poste. Devo fare due domande. Una per mia nipote e l'altra per il fratello. Poi si da giocare, se no si da mettere il culo. Oh, che palle, che sei una volta che sali, ti giri qui, ti giri, mamma mia, vai la mamma, corri, vai la mamma, non ci vuole andare, no? Andare, anche quello vuole fatto, evidentemente. Avanti Gianni, cos'è che hai comprato con questa antenna? Buonasera Giulio, ben sentito. Volevo fare un esperimento, sapevo già cosa andavo incontro, quindi insomma ero consapevole di quello che stavo facendo, però ho voluto sperimentare, ho aggiunto uno spezzone di capo che chiaramente non è suo, nonostante sia un buon capo schermato, però ha un'impedenza diversa. Ho cambiato la posizione dell'antenna, l'ho messa sul palo della TV, l'ho alzata parecchio, però giustamente adesso praticamente il segnale è sceso, quindi l'avevo già messo in conto. A proposito di segnale, mi dici come ti sto arrivando? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Santiago 8, no, non dovevi fare così, il canale usato, il capo di televisione l'ho sentito poco caso. Se il cavo di televisione bisogna metterlo doppio, in parallelo, e con una resistenza a 50 ohm per poter avere la stessa impedenza. Se tu lo chiedi realmente, dicevo io come si faceva per usare il cavo di televisione, perché un bartello me l'ha detto, comunque è sempre una porcheria, è meglio sempre il tuo cavo, il coassiale è del 52 ohm, 50 ohm, là, 52. Capito? Cioè, mi spiego bene, vai. Allora, se tu vuoi trasformare il cavo a 75 ohm, lo vuoi trasformare in 50 ohm, lo devi mettere doppio, due sezioni, tanto per farlo esempio, quanto ne metto io, sezione a un metro, ecco, devi mettere un'altra sezione in parallelo a quello, però fra i due poi, ti devi mettere una resistenza a 50 ohm, e avrai il cavo a 50 ohm. Mi sono spiegato? Sì, giù, non è, allora, per essere precisi, allora, non ho usato il cavo dell'antenna della televisione, questo sia ben chiaro, ho usato fatto un altro tipo di capo, che si chiama RG59, è un capo che si usa per le apparecchiature video, non è un capo l'antenna TV, capito? È un capo schermato RG59 da 75 ohm, capito? Non è un capo l'antenna. Sì, sì, ma è uguale, è uguale, lo stesso procedimento nel fare, perché a 75 ohm tu APL ne devi attaccare due cavi, due, dando di uguale misura, poi prima di attaccarla all'altro cavo, quando fai l'aggiunzione, tra l'uno e l'altro, se devi avere una resistenza da 50 ohm, e quel cavo da 75 ohm si trasforma in 50 ohm. Capito giù, ho capito benissimo, grazie. Sì sì, ho capito l'accoppiamento della resistenza per la fila dell'impedenza. Sì, ma guarda, devo dirti che è una cosa molto approssimativa, è assolutamente temporanea. Adesso praticamente l'antenna è molto più in alto, praticamente non la tocco più. Adesso appena possibile cambio il capo, ripristino tutto e ciccia. Giulio, quanto è il mio segnale così col K? Che poi ti faccio vedere una cosa, non vi spaventate però, che accendo l'elicottero, che lo stavo provando, da tanto non lo provo, FL2100, quanto è il mio segnale così, con 20 watt? 9 più 8. Ok, riprendi che mi sposto e faccio l'accordo. Sentiranno più le ventole che la modulazione, ma comunque già si sente, beh. Riprendi con loro, mi sposto un attimo. Va bene, mi sta andando il fatto del cavo Gianni, comunque è sempre meglio non fare questi accoppiamenti. Tirare il tuo capo originale 50 ohm che ha la stessa impedenza dell'antenna, per cui, perché molto probabilmente adesso hai anche qualche satellite in più, sicuramente. Tu il nome per loro non ce l'hai, per misurarla, però sicuramente c'è qualche vecchio di fattorale in più. Sì, giù. Guarda, stamattina mi stavo controllando una tabella praticamente dell'impedenza dei cavi e praticamente qual era, tra virgolette, il meno peggio dei cavi coassiali. Praticamente l'RG59, quello che ho messo io, diciamo che il meno peggio, ecco perché l'ho messo, perché era proprio il meno peggio. Il peggiore è quello che si usa per l'antenna della televisione. Quello ne avevo un po', però non l'ho messo. Ho messo questa spezzone di capo buono che avevo qua e ho messo l'RG59. Lo sapevo già che avevo un'impedenza diversa. E ti ripeto, ho cambiato la posizione dell'antenna e me ne serviva uno spezzone per poter arrivare al baracchino, capito? E quindi momentaneamente, ma adesso mi arrangio così, appena possibile, adesso Claudio vede qualche spezzone di RG58 e si è reso disponibile a darmelo, capito? E così una volta che apro il capo sistemiamo tutto. Vado a vedere Giulio, segnale. Nove e quindici, va bene. Le ventole molto fastidio danno? Ma io non sento quasi niente, non niente di particolare. Va bene, poi la modulazione la copre. Vabbè, la modulazione è sempre uguale, no? Che cambia. Assolutamente è segnale HF, quindi non è della 27. No? E da te Antonè, in che lato c'è lo smitter? Me lo chiedi pure, lo sa dove andare. Va bene, adesso una prova, no, sto usando quello della Yaesu che da tanto non lo uso, e allora l'ho attaccato, a vedere, sta andando di lusso solo per le ventole, quando schiaccio il PTT aumentano di velocità e quindi si sentono di più, se no sono molto molto tranquille, capito? Non le senti in stand by me. Però quando schiacci è fatto così, per raffreddare prima la tensione anodica, allora girano più veloce, quindi si sentono di più. Va bene, e prendi Giulio. Ok, sì, no, intendevo che la modulazione, il corpo la ventola quando stai parlando, ecco quello intendevo. Lo so che non cambia la voce, se lo chiedete. No, non si. Va bene, vai. tornando al discorso che avevamo, Gianni, vabbè, cambia, ma poi l'aggiunzione, non per fare l'aggiunzione così come l'hai fatta, con la sua latte, è preferibile con i malvinuti per domani, perché così è tutta una scarmatura che ci va sopra, perché proprio in quel punto lì, in quel punto... Lo bacio. Proprio lì ci sono stazionali. C'è voglia. Va bene, dai, tanto c'è una cosa provvisoria, già va bene. Comunque tieni d'occhio il baracchino, ma intanto tocca quando sta andando. Se tu senti che scalda più del solito, blocca tutto. E adesso come, Giulio? È aumentato ancora o è sempre stabile, uguale? Aumentato la sera, 17, là, più o meno. Dallo strumento come... Vabbè. Mi indica il segnale più basso, già visivamente sì. Insomma, anche lo smitter già mi dà la misura di quanto è sceso il segnale, capito? Certo, anche lo smitter qualcosina si fa vedere, certo. Ma è così, in effetti è così. E vabbè, ma se è una cosa provvisoria non c'è problema. No, ma volevo dire, pensa a te, visto che stai volando adesso con questa aggiunzione che hai fatto, di tanto in tanto tocca il baracchino nel punto dove ci sono le finali. Se sente che sta saldando eccessivamente, blocca tutto e fa la freddare. Sì, vabbè, poi chiaramente allora, il PL è saldato correttamente. L'aggiunzione... Domani vado a Fuggiare, gli compro 20 metri di cavo, gli regalo. Sono andato bene. Insomma, la saldatura è stata fatta correttamente, misurato col tester per vedere se c'era qualche eventuale corto, tutto a posto. Ti ripeto, ho aggiunto solo questo spezzone di cavo perché ho spostato l'antenna e ciccia, capito? Ok, sì. No, ripeto, perché anche l'aggiuntore del cavo, sempre trattandosi della stessa impedenza, chiaramente, si può fare, però bisogna ricoprirlo con la carta stagnola, sua, stessa, insomma, devi fare una bella... è la meno cavo possibile, cioè, tra il nuovo e il vecchio, deve essere preso quasi punta in punta, là, insomma, che non... in modo che non si formino di punti di differenza, di impedenza, perché se no succede quello che non deve succedere. Va bene, adesso ti ho spiegato qualcosina, scusa se mi sono permesso, ma siccome mi capita qualche volta ne ho saltato anch'io, per qualche ventina d'arte, ma comunque. Non mi ricordo più come. Ecco bene, mi sono dimenticato il tuo nome, ragazzi. Mi pare che non eri battezzato. No, stavo guardando su cosa? Nel telefonino le case che stavano vendendo. E ce n'è una, se mi sbaglio, è quella dove abita padre Francesco, questa. Lì a centro storico. Mi sembra la sua la verità, la palazzina. Allora, ma aspetta che sto guardando un po' di roba, già rientro subito. Oh, Giulio. Sì, dimmi qua. Mi ero rimesso tutto com'era, beh. È giusto una prova, lasciamo comunque il stand by, così si rimane un po' in funzione. Stavolta mi ha dato un messaggio. Allora, dall'ingresso di Gaglia, il Vince a Sant'Elia non si può camminare manco a piedi. Dal traffico, ma non posso immaginare, ci sarà tutta la grandiglia, ci sarà a Cagliari oggi per vedere la Juve. Dalla volgione valerà la pena andare oggi proprio perché la Juve non le ha compreso. Cazzo, a me mi sembra che ci mancano 9 giocatori titolari. Ha dovuto portare 2 ragazzi già da primavera per completare l'organico, ma sì. Ma è preparato la critica, cosa sta combinando? Ma quando mai tu questi giocatori si devono funzionare così frequentemente? Mamma mia, triste. Vabbè, sarei voluto essere. Ma non posso, c'è mia moglie. Allora, quindi no, non facevo. Grazie a Filetto, vai tu, rimango io, no. Vai tu, mi sono doio. Cosa? rimango a casa io, era giusto così, tanto per una giornata diversa, ma no, non me la fu tenuta, cioè me la guardo su Sky, tanto su Sky, sì sì, ma traffico, e con questo per molta gente è rimasta delusa, così stava dicendo anche a Tic Tac lì Pierluigi Balto, perché non c'era Ronaldo, molta gente ha comprato il biglietto perciò lo stadio pieno per vedere Ronaldo, ma Ronaldo non v'è e non vi sono manco altri, quindi cosa, non ho capito, ne prenderanno una delusione. Sì, oggi non erano andati, guarda, vabbè, ti avevo fatto il biglietto, purtroppo dice, ormai se no come faccio, non posso prendere tanto per quando, per dire, o da qualche altra parte della Sardegna, finché si accade, vabbè, c'è sempre qualcuno fa il pubblico fuori che rimane senza, glielo puoi anche prendere. Allora io dico questo, secondo me andare a vedere la partita nello stadio del Cagliari non è possibile. Perché? Perché contiene semplicemente 16.000 spettatori. Il Cagliari quando ce l'ha io visto, minimo fa 35.000 spettatori. Se non li metti, è questo che mi chiedo io. Dunque, fin quando non ci sarà lo stadio nuovo, non ha senso andare a vedere la partita Cagliari. Io la penso così. Non ho mai pienamente ragione, 18.000 ne hanno scrivato, così stava dicendo la televisione, 18.000 su 16.000, quindi deve essere che hanno fatto qualche altra tribuna da 2.000, perché è pieno, però alla fine gli ho fatto c'è prenotato mio cognato, ma tu hai fatto io, dammi di Napoli, ma no, dammi solo, 18 non li vedi, basta, allora ci me lo date le dinari. Qualcuno, avanti. Buonasera. Ciao Massimilia. Ma che è passato? Ciao Gianni, ciao Giulio, ciao Claudio. E poi ancora non so chi c'è in ascolto. Ciao Massimilia. Sei rientrato prima oggi, perché stava piovendo, Sei rientrato prima, mica sono già, che adesso sono le 6:10. E non è che sono rientrato prima. Mi ha rimasta da alle 6 di stamattina, no? Beh certo, già lo credo, ma che rende? Va bene, dai. Riprende Claudio. Ehi. No, vabbè già, ci siamo sentiti a Massimiliano in partenza. Vabbè, sei vicino adesso, però sei andato via alle 5. Già, non sei lontano come di prima, dai. Va bene. No, mia, adesso ha smesso di piovere. Ma più giradina già leggera, niente di particolare, Massimiliano. E no, lì ha dato una bella passata, Claudio. Quando ce ne stavamo andando stava piovendo di brutto. Poi siamo arrivati a Sassari e niente. Cioè, vabbè, l'ha messa così, però fino alle 8 poi non ne ha messo più. Ok, va bene. Cos'è che ti volevo dire? Nulla. Avanti Gianni. Eia. Aspetta, stavo rubando una sigaretta e mi sono dimenticato una cosa a chiedere a Giulio. Vabbè, appena me la metto già gliela domando. Ok, dai, avanti giù. Ok, sono qua tutto orecchie. Quando si è ripreso nella mente, tieni il pugno, ci sono problemi. Sì, ma Daniele oggi, no, non si è sentito, no. Daniele, a presto, non mi sei. Sia di servizio, ho capito, la al 118. Quindi faccio che abbia il turno di sera oggi, se no già sentiva. Cosa mi volevi chiedere, Massimiliano? Se avevo provato l'amplificatore? Sì, poco fa l'ho provato. Se vuoi mi sposto e te lo faccio sentire anche a te. Se dove ti sposti, qua non va bene a farmelo sentire, perché cosa c'è? Ci dobbiamo proprio trasportare? No, devo abbassare la potenza, devo spostare. Qui c'è ancora la potenza più alta, c'ho 20 watt, devo abbassarla. aspetta, la bassa. Ecco qua, così la potenza bassa. Ecco qua, così la potenza bassa, aspetta che aggancio. Ecco qua, così agganciato. Allora, intanto si sentono molto le ventole, prima cosa. Seconda cosa, ti aumenta molto la modulazione. No. Non la satura, attenzione, l'aumenta molto. Allora, noi stacchiamo il processore, ora, ora, e le ventole si sentono, Massimiliano. Quando schiacci il PTT aumenta la velocità della ventola, se no in stand-by non si sentono, purtroppo non sai che amplificatore è. Perché l'amplificatore HF di quelle cose lì è così, c'è un relè per aumentare la potenza della ventola per far sì che raffreddi prima, capito? E il segnale quant'è? Ma fai sganciato, fai 25, agganciato 30, 5 dB aumenta, è già molto. Ma è come il processore lasciano inserito, se no fai il modulende con un baracchino. Allora, delle ventole a me non mi interessa, sono ventole, non è che sono disturbi. E allora, quando attaccano i grandi con quel bestione di ventole, le ventole sono ventole purtroppo, infatti lascio stare così. Vabbè, ecco qua, questo era il passaggio, e sono tanti, in città sono tanti adesso. Farò la prova fuori per vedere se sta funzionando bene, ma anche da Giulio ho visto che da 9.8 a 9.15, quindi già va bene. Poi accordando appena appena di più, anche 9.17, quindi già va bene. Però qui c'è l'antenna con la ricezione superiore a quella di Giulio e quindi è più affidabile il tuo segnale, come dice sempre lui. Va bene, riprendi giù che sgancio, dai. Ok, sì, ma confermo, certo, io l'antenna ce l'ho come te, per cui oltre alla potenza in uscita e anche in entrata è chiaro che avete una differenza notevolissima. Va bene, dai. Anda bene, ma te, tanto che ci sentiamo, proprio non ce ne so. Va bene, lo stesso. Insomma, Massimiliano, gli è andata la buccia, gli è andata oggi, comunque ha fatto bene, se si sentiva le tua moglie, hai fatto bene, non andavi, a lui mi ha preso anche la partita, ci mancherebbe altro, prima la famiglia, poi il calcio, capita, vuole vedere, hai fatto benissimo, adesso state la casa. Le prendi, Gianni? Sì, sì, vabbè, riguardo a... l'ultimo passaggio di Claudio qua chiaramente arrivava nettamente molto più forte, poi ti ho detto personalmente a me le ventole non mi disturbano, quindi se lo deve tenere acceso lo può benissimo tenere acceso, a me non è un disturbo tale da creare fastidio, capito? Quindi per me personalmente va benissimo. Ok, dai, avanti Massimiliano. Sì, ma per come siamo noi così va, non c'è bisogno di accenderlo, capito? Quello va bene se magari tu ascolti qualcuno così in lontananza, o cioè ti ascolta in lontananza un po' bassino, allora le dai un aiutino e va bene. No, volevo chiedere quanto c'ha l'ingresso quel lineare, Luca? Dai 10 ai 15 watt, però ti ripeto, io lo tengo basso, tengo a 10 watt, una cosa del genere. Da 1 a 15 in AM, in SB da 1 a 30, dai, una cosa del genere, 25. No, a cosa serve? Era giusto una prova per vedere come la situazione, ma lo tengo collegato, spento, così. C'è il suo interruttore, quindi è spento, tutto a posto. Va bene. Peccato, perché sai che cos'è, Club? Per essere un lineare HF, come ingresso, 15 watt sono pochissime. Cioè, perché tu non puoi usare un 4,40 legato a 8 watt, capito? Cioè, la radio sta lavorando al 50% neanche con 8 watt, capito? Sarebbe stato se avessi avuto già una 20-25 watt d'ingresso, allora il picco di modulazione lo vedi, ma così la radio è come se si trattasse di un baracchino 8 watt. Non è così, Massimiliano, non è così. Ma che cosa che compra un affare del genere per usarlo in AM? Io sto facendo la prova in AM. Tutti i radiomatori lo usano con quella potenza, erano 600-700 watt, dipende dal modello dell'amplificatore. Capito? Io tutti quelli che sento, l'RM Italy, hanno radio HF anche da 200 watt, lo ottengono a 10 watt e erogano 500, 600, 700, dipende dal modello. E va bene, fatto per l'SSB, quello non per l'M. E non me lo seguo trattando io, se no non è lineare da usare in 27, no? È che c'ha la commutazione automatica, perché è un HF, quindi adesso sei in 11 metri, lo metti, vai in 28, lui cambia automaticamente, vai in 40, cambia automaticamente, capito? C'è il selettore di banda automatico, non ha bisogno di niente, perché è 1.30, è sintonia continua, capito? 1.8, 30 MHz. No, tutti i radioamatori stanno preferendo le lineare allo stato solido, perché le valvole oramai sono andate, no? E poi consumano una barca di energia, mentre lo stato solido a transistor, gli amplificatori HF vanno molto molto meglio. Oramai è così, le valvole sono sparite, vero e matto giù. Sì, e beh certo, ho fatto il consumo, poi transistorizzate subito pronto, non devi aspettare niente, non devi aspettare che scavi nulla, va a parte in quarta, deve traversarsi in quinta, come la Formula 1, funziona. Beh, è chiaro, con un paio di anni il progresso c'è stato anche per quel settore di genere tunica, certo ci mancherebbe altro. E vabbè, dai, comunque. Donna Zumba, abbatte, Musacchio, Romagni, Neroni, Lassat, è l'area della regina, per mangiare la cilindri, ma l'hanno tolta, ragazzi. Stavo leggendo la formazione di Lina, ma l'hanno tolta, meglio paese. Sì, ma è così, evidentemente, se c'è automatico, cambia frequenza da solo, è un po' come il commutatore, come si chiama, il commutatore antenna, o qua, funziona all'incirca nella stessa maniera, dai. E quando cambia frequenza, cambia da solo, cambia. Sì, beh, è un HF, uno stato solido, capito? Molto meglio del, questi sono diciamo dei più piccoli, ma ce n'è anche più grandi, però è abbastanza soddisfacente. L'ho provato anche in banda laterale, sempre col 440, poi ho commutato al 756 e eroga bene in banda laterale, il picchio è buono, vabbè, non è, ma io prego basso Massimiliano, se no ti ho detto che mi va fuori scala. Io ho la T230 da 200 watt, te l'ho anche fatto vedere, mi va fuori scala, quindi lo tengo a bassa potenza per rientrare nella scala della T230, se no gli posso anche dare 20 watt, non è un problema quello. Capito mi hai? Non hai aggiustato, pulì un altro strumento sopra, io non mi voglio di rotture di balle. Ho la T230, la scala è sino a 200 e lo faccio erogare così, dai, niente di che. Avanti Massimiliano, riprendi. Sì, già va bene. No, claro, io dell'RM così, dalla KLV, ho avuto il Delta Rossa. Non so se lo conosci, quello che ne ha tre di ventole sopra. E me l'ha venduto un radioamatore che fa servizio, è un carabiniere, che fa servizio a Palermo. Però lui è di Bolottana. Insomma, te l'avevo anche detto, IT9 o una cosa del genere. Bello. Sì, era IS0, ha preso la patente con me, il primo nominativo io ero DCR, lui era D, cioè che non me la metto, DF mi pare, non mi ricordo, poi si è trasferito a Palermo per servizio e quindi da IS0 è diventato IT9, Italia Tango 9, che è la Sicilia, sì. Sì, cioè quello che aveva il monovolume. Vedete la macchina era un menamento che c'aveva quel lineare sotto il sedile di dietro, quello lì è. No, quello è un altro. Io avevo proprio, è uguale a quello lì, l'unica cosa che si chiama Delta Rossa, il lineare è tutto rosso e c'ha tre ventoloni neri grandi sopra. L'avevo preso, l'ho provato e quello fa 600 in AM e 1200 in banda. Però Milano è arrivato qui, l'ho provato e non dava più di 300 watt. L'ho chiamato, gli ho fatto un video, l'ho chiamato, mi ha detto non c'è problema, restituiscimi tutto e io ti restituisco il sur. È stato veramente in gamba. Sì, ti ho capito, già lo conosco. Ti ho detto, quel lineare, quella persona lì, quel carabiniere, siccome c'aveva una macchina monovolume, una macchina abbastanza grande, il lineare era nel sedile di dietro, sotto il sedile di dietro c'era un posto ed era lì, con i cavi grossi che arrivavano sino alla dove c'era il baracchino. Quando è venuto a dare l'esame, era una macchina grigia, adesso mi ricordo che macchina comunque monovolume, quando è venuto a dare gli esami aveva l'antenna del baracchino al centrotetto e ci ha fatto vedere tutto l'impianto che aveva e ci aveva questo lineare testa rossa, come lo chiami tu, con tre ventole, un bestione, il doppio di quello che c'ho io, e ce l'aveva nel sedile di dietro, sotto il sedile di dietro c'era un cofanetto lì e lui l'aveva messo lì sotto. Sì, e quello è HF per esempio, è come lineare qua. C'ha le bande dove puoi metterlo, c'ha 26 dB di coso, di amplificatore di antenna, c'ha 26 dB di guadagno, però era scarsino perché c'erano quasi due finali in perdita e quindi non andava e io l'ho restituito. Quello era HF, cioè aveva 60 watt d'ingresso in AM. È un modello diverso, però se tu mi dici che il selettore di banda era manuale, è un modello vecchio. Questo è il selettore di banda, ce l'hai in automatico, cambia a seconda dove tu ti sposti di banda, lui cambia automaticamente dall'interno, capito? Così, non so. Se tu guardi quelli che ti ho mandato sono tutti 1.10 in AM, mi pare 1.25 in SSB e ce l'hanno tutti così, però sono tutti di 500 watt in banda laterale con la direttiva è un'altra gubba, capito? Avanti Gianni, riprendi e fai girare per Giulio. Ok, mi assento 5 minuti, ok, 5 minuti e poi ci risentiamo. Avanti giù. D'accordo Gianni. Sì, no, per rispondere un attimino a Massimiliano. Massimiliano, sì, indubbiamente da 600 a 300 era molto scarso. Però non pensare che un lineare se trovando per 600 watt o per 1000 watt, che ti dia 1000 watt pieni, questo no, assolutamente no, ti dà sempre molto di meno. Se 1000 watt te ne può dare se no 700, 750, se un 600 ti può dare un 400, 450 più o meno, ma 300 in effetti era pochino. Io questo l'ho sempre messo sui forum dei relatori, soprattutto Roger Capa, eccetera, ci sono tanti discorsi al riguardo di un po' di tutto e un po' tutti erano unanimi dicendo questo particolare qua, che è geniale, sì, costruito per 1000 watt, però poi c'è una serie di complicazioni, cominciando ad esempio dal cavo di antenna con il piazzato, l'antenna stessa che hai, la lunghezza del cavo, un sacco di cose, la potenza che è in grado di mandare in ingresso, tutte queste storie qua, no? Dunque, non è che sei costruito al 100.000 watt che ti dà 1000 watt, assolutamente no, Massimiliano, quindi. Dipende Giulio, mi aspetto, sto cercando un video che te lo mando, perché qui non ti voglio dire niente. Questo Claudio è quello che ho sentito sempre e ho letto sempre sul forum, io lo controllo sempre, parlo sempre, leggo sempre il forum radioamatoriali o qua. E diciamo che su questi ragionamenti se ne fanno tanti, no? E appunto sto dicendo quello che ho sentito, io non lo posso poi naturalmente confermare perché io lineare non ne ho mai avuto, di conseguenza di un 747 di una volta che poi tra l'altro me l'ha bruciato il fulmine, ma quello lì era un giocattolo, non era un lineare. E prendi Claudio. Aspetta, scusa la tocca. Allora, questo è il mio, Giulio. Questo che l'ha fatto, che mi ha cambiato i finali perché quel fulmine dell'estate scorsa me l'ha bruciato, quello che sta misurando è un beard professionale, che questo è quello che in poche parole fa i lineari da diciamo autocostruiti, ecco, abbiamo così, questo è un ingegnere, capito? E questo, guardate il video, questo è il mio, vai Claudio. E il tuo li dà, perché li dà? Li dà perché sono stato modificato, sono stati cambiati i finali. Lui sta parlando in originale, se è un lineare in originale, per dire, è un, adesso prendiamo un B300, ok, si chiama B300 perché deve erogare 300 watt, ma li eroga in SSB, non li eroga in AM. Bravo, io il mio non è stato modificato, il mio originale, ha bruciato i finali originali e ha messo altri finali originali, cosa è, non è stato modificato, no? Ah, non ha messo i finali più grandi, ha messo sempre gli stessi. Assolutamente, prima c'erano i Motorola MRF 422, adesso ci sono i Macon 422, uguali, danno lo stesso vantaggio. Cosa ha modificato? No, non ho modificato nulla. Io lo conosco quel lineare che lì da. No, ma anche questo l'RM Italy, c'è scritto in AM 300 watt e li dà tutti, anzi, li dà di più. Era anche di più, assolutamente, quindi le dà tutti, in SSB erano a 600 watt pieni, quindi è più che sufficiente per essere un transistorizzato di quelle dimensioni, capito? Però è della RM Italy, che sono per me i migliori amplificatori allo stato solido. Cazzo, se vedi quelli grandi, hai visto che ci aveva Stefano? Ciupa ciupa. Sì, ho visto. E beh Giulio, l'hai guardato le cose? Costruito quello 600 che in 40 metri con 30 watt l'ingresso ne dà quasi 700, quello che c'ho io. Quanto? Quasi 700 ne dà, 650 P&P con due finali. Dove si fa vedere? Quello che ho io del RM Italy, non lo so quello che fa, come ti ha fatto Trento, 650 watt da in 40 metri con l'antenna dei 40 metri. Buono e cosa vuoi? Cosa vuoi di più? Non va bene, ma cosa devi andare? Quello si usa quando il pile-up è un po' particolare, quando la propagazione magari è un po' scarsina, ti aiuti, ma non è che devi fare... ti ripeto, ed è appunto uguale come le caratteristiche, perché in AM, FM parla dai 300 ai 350 watt e li dà tutti. A tutti, quindi è perfetto. E poi è un signor amplificatore HF è professionale, non è il retagino, è veramente le fa belle cose. Ha visto quelli da base, da paura, 2500 rotti euro, minchia. Purtroppo così se li fanno pagare, non ce ne trova a fare. I lineari costano e buffe. In genere, secondo me, questo ingegnere qua lo fa pagare più o meno, 1 euro a watt. E sì, 1 euro a watt, cosa deve fare? Non serve a niente. Io perché sono animatore, nel contesto ci vuole, perché ti aiuta quando fai i collegamenti, ma alla fin fine no. Non serve a niente. Avanti. Ma Antonello, il parito, Antonello ci sei? No, era preparato, per quanti vatti è stato costruito, però c'era altro 600 oltre, ma per quanti vatti è stato costruito quel legnare, o Claudio? Per 600 watt, 600 in SSB e 300 in AMFM, li dà tutti. Meglio così. Allora quello che scrivono alle volte sul forum, non sono anche SSB, potremmo dire. Sì, non ci credo, certo. Ma in effetti se una cosa è costruita per essere così, dovrebbe darmi, perché se no sarebbe una specie di truffa, tra virgolette. È buono avere un aiutino così quando è necessario e una comunità enorme. Però io ho preso anche questo. I lineari a confronto con le radio sono troppo cari, secondo me, sia quelli per la 27 che quelli per i radioamatori. Secondo me in proporzione costa più il lineare che la radio. E la radio ha un altro valore, secondo me. Sì, il lineare costa sempre di più della radio, non ho capito il perché, vabbè, magari ci sono diverse componentistiche, tutte queste cose qua, quindi non ho capito perché lo facciano pagare sempre di più della radio. No, volevo aggiungere appunto che dipende anche dalla radio, però attenzione, certo hai una radio che costa 2000 euro, vai a metterli, no? Un amplificatore della RM Italy allo stato solido da 2 kW, 3 kW ti costa 3.000 euro, ma è chiaro, però se c'hai una radio da 1.500 euro vai a comprare un amplificatore da 500 e ti aiuta lo stesso. Poi visori macchini, un bel di macchini, un bel di cose, ho capito, perché non è il caso di avere, poi c'è quello che vuole essere il numero uno in potenza, allora ci sono anche gli amplificatori da 5 kW che costano 10.000 euro, qual è il problema? Bisogna sempre avere la pila, però anche se uno ha la pila è meglio che abbia la testa sul collo che invece avere la testa a posto dei piedi. Sì, ma okay, io dico anche questo, va bene, 5 kW, 2 kW, 1 kW, 500 watt, inutile che ti sento a te quando tu poi non senti il corrispondente, cosa ti ne va di un lineare? Sì, Miglia, se hai l'attrezzatura, come trasmettere ricevi, perché io ti posso garantire che se è chiaro, hai un'antenna che non serve a niente, ma con le direttive sono state fatte ai radioamatori. Io non sto parlando della M, non sto parlando della 27, la 27 lasciamo perdere, si gioca e ci si diverte a livello come siamo tutti, ma a livello amatoriale la direttiva ci vogliono, ecco, la direttiva quando tu sai che il corrispondente a 230 gradi la metti a 230 gradi, stai pur certo che anche se ti arriva segnale 1 lo tiri fuori, non ce n'è problema, quindi dipende dai chilometri dove uno sta lavorando, perché ci sono dei country che sono anche a 12-13 mila chilometri di distanza, ecco, le direttive i radioamatori, noi radioamatori, perché anche io sono radioamatore, ma nella carta, noi radioamatori sentiamo, perché è giusto così, è chiaro, se c'è un dipolo non senti, no? Quindi la cosa dice è vero lineare, i lineari sono stati, si abbinano alle direttive, no? a un dipolo giri l'Europa con 100 watt e ti accostano in tutti, accorti a quelli che sono in Europa, ma se vai a scoprire il mondo devi avere le antenne, non la radio, no, le antenne ci vuole. Hai ragione, però hai detto una cosa, un grande, sentito Aggio, radioamatore, io sono radioamatore. Scusate, Claudio. E io sono radioamatore, sì, nella carta da Giuditto Barò. La carta che ti dicevi abbanettati lo mucco, dimmi Tino. Com'è questa radio? Va bene. Limpida, chiara? Insomma. Ni. Tu sei incontentabile. No, vedi, io sono perfetto. Per me va bene, però non è la radio che piace a me. È un po'. Manca sempre di tonalità acuta, niente da dire, ma manca di tonalità acuta. Ti mando l'altro pignolo avanti, Fabio. Sì, confermo, Tino. Ciao, buonasera, me l'ascoltate. No, vabbè, è una radio normalissima, un 48 normale. Sì, però non è al top, come potrebbe essere. Non lo metto in dubbio, è normale. No, dico la modulazione, non c'entra la... il 48 è sempre una bellissima radio, anche normale, c'è una bella modulazione. Sicuramente stai usando un microfono amplificato, giusto? Sì, CTE, dai. Stai usando il CTE? Mica niente, tutto aperto? Sì. E prova a chiuderlo un pelino, vedete invece. Prova, guarda così, 1, 2, 3, prova. Vedi che ha già migliorato un pochino. Sì, però per me manca sempre di tonalità acuta, cioè molto, molti medio-bassi. Vabbè dai, era giusto una prova che stava andando, c'era un po' di tempo fermo. No, andare già va, però ti ripeto, se mi dai più acuti mi piace ancora di più, però niente da dire, va bene. Va bene, dai. Riprendete, grazie, era giusto un controllino veloce, che mi rimette in ordine qua. Caparrogelo, avanti Giulio. Ok. Sì, perché... No, quello che volevo dire io, Claudio, hai ragione il fatto di antenne, se non ci sono antenne è quello distante, e se non hai l'aiuto non è che puoi fare tanto, è vero, è quello già è vero. Però allo stesso tempo devi avere anche una potenza del contatore adeguata, perché se tu hai un contatore da 3 kW, come normalmente la gente ha a casa, sono 5 kW, il lineare non lo sopporta, dunque devi avere anche una certa potenza da parte dell'Enel a casa, o Claudio. No, Claudio c'è il gruppo elettrogeno in camera letta, diesel. Allora, anche faccio un gabbo a posto di bevi, ma infatti non mi hai ascoltato, ti ho detto Giulio, a me gli amplificatori di un certo livello non mi interessano, io ho detto che sono, ribadisco e lo ripeto per tutti quelli che stanno ascoltando, che sono radioamatore nella carta, cosa vuol dire? Che mi sono preso la patente, la licenza radioamatore per avere tutte le radio e tutto ciò che mi piace, non di certo per andare a mettermi a fare l'abbonamento fisso con l'Enel, capito? Io l'amplificatore l'ho sempre avuto, il massimo che ho avuto è 1 kW, quindi con 3 kW va benissimo. L'ultimo che praticamente Massimiliano già conosciuto, quello della Iesu, quello erogava 1,2 kW, però io lo tenevo, anziché darle 100 watt d'ingresso, 80 watt d'ingresso all'amplificatore, ne davo 50, lo facevo andare con 500 watt. Come più o meno va questo allo stato solido, che consuma la metà, perché uno è avere le valvole, e tu mi insegni che un amplificatore a valvole, a 220 a valvole, consuma molto di più, mentre uno allo stato solido così, attaccato a un alimentatore da 60 ampere, non consuma niente, capito? Quindi tutti i radioamatori stanno avendo questo tipo di sistema, stanno comprando gli amplificatori, soprattutto questi professionali della RM Italy, ne ho fatto vedere un paio a Massimiliano, di cui c'è un mio carissimo amico, eroga un tantissima potenza, ma il consumo è molto, molto minimo, perché è lo stato solido. Capito? A me non mi è mai interessato, Giulio, assolutamente. Io non ho mai avuto amplificatori, ho preferito comprare le antenne, avere le antenne come i cristiani, anziché avere 5 kW e averne 600, e farmi sentire dove voglio, perché anche se tutti gli altri hanno una preparazione molto più grande della mia, ma io non sono indietro a nessuno, no? Se voglio farlo lo faccio bene, radioamatore, ma non mi interessa farlo perché non ce l'ho quella passione, capito Giulio? Sì, però ho capito benissimo quello che fa quello che avevi detto. No, ma io intendevo dire, oltre a uno avere questa attrezzatura così di un certo rilievo, deve essere attrezzato anche di corrente elettrica, perché se no è inutile avere un legname da 5 kW, ragazzi, perché poi hai sul contatore magari ne hai 3, 4 kW e non basterebbero con tutto il consumo che c'è nelle case anche, da bagno, lavatrice, frigoriferi, per il figlio e tutte queste cose qua. Dunque, se c'è un certo momento uno quanto deve avere a casa per poter utilizzare un amplificatore di quella potenza? Non avrebbe senso, ecco, non so fino a che punto sia conveniente, oltretutto, oltre al fatto che costa la mano dei soldi, ma se ce li hai i soldi, vabbè, uno si chiede la punta massima della corrente elettrica e paga per quello che deve essere, e va bene, ma quello è a livello di malattia, ma se me li ha. Un animatore che fa una cosa del genere per un malato al primo. Davvero, io chiedo un attimino di bianco, me ne vuole allontanare, secondo io vuoi scendere giù, poi riprendo subito. Ehi Massimiliano, guarda che il vostro vicino c'ha 10 kW, attenzione, 10 kW energy, quindi vedete voi. Io quando negli anni passati ho avuto l'amplificatore più grosso della mia vita, che era il TL922, purtroppo ero al piano superiore, al nono piano, se sono al secondo, avevo chiesto all'Enel di portarmi da 3 kW a 4 kW, niente di più, capito? E basta, 4 kW, ed era più che sufficiente, perché come dici tu, quando lo attaccavo, lo usavo, mi scattava il contattore secondo quello che c'era, e infatti la gioventù di subito, anche io non aggiungo un po' all'Enel. E da lì non ne ho più comprato amplificatori così grossi, capito Giulio? Ma io ho sempre 3 kW a casa, quindi non, come vedi, non ho nessuna malattia nel modo più assoluto, né qua né nell'altra parte. Sono finiti i tempi di grassa l'uguro all'Enel, come si dice in gergo molto sporco. Certo, no, ma io non intendevo nel senso offensivo, cioè, ma che è adatto, perché ognuno con i propri mezzi fa quello che crede, cioè, ma che crede, ma per dire, no, come si dice un po' a tazza, no, quando uno è esagerato, la prima cosa che pensa, giù si è malato a capo, ecco, però io l'ho detto no, senza offendere nessuno, cioè, ma che è adatto, ripeto, chi è in grado di poterlo farlo, faccia pure, tanto di guadagnato è buon per lui, cioè, ma che è adatto, vuole vedere. Diciamo privato di una certa cosa, se a lui le fa piacere a me, ma se mancherebbe. Sì, ma è così, in effetti, ma lì, dunque a quel punto lì, sono prese rose troppo, perché non è possibile. Io sinceramente, vabbè, no, io non sono un allevatore, non ho certe attrezzature, però se fossi stato un allevatore sono più che convinto che non avrei esagerato con la stazione, non avrei assolutamente esagerato. L'avrei preso magari una bella radio, avrei messo delle antenne performanti, queste cose sì, anche il lineare avrei preso, tutto a livello come fai tu, senza esagerare, poi con le grandi spese per comprare, per avere magari 5.000 watt, 7-8.000 watt, cosa me ne vuoi? Andate a casa di quel mio amico e c'era una cosa imballata, era per terra ancora, mi ha appena arrivata, dice, e non l'ho ancora imballata, è un lineare, mi fa il patente che costava 15.000 euro, mamma mia, che ho fatto, e ce l'ho comunque l'uomo. Mentre giù, non tutti siamo uguali, io ti ripeto, io sono ormai legge e non ne ho problemi. Io oltre 500 watt non ce li ho, quindi La legge è quella, io vado avanti così per la mia strada, poi ti ripeto, sono contentissimo che tutti vanno avanti per la sua strada e fanno quello che le piace, io faccio così, anche perché sinceramente parlando non ho la possibilità di buttare via i quattrini né in amplificatori né in radio. Lo sai, no? Mi conosci, hai visto tutto di casa mia, quindi non ti ho mai nascosto niente, le radio le conosci, sai dove sono, hai fatto tutto due nomi, quindi io ho le radio essenziali che mi consentono di fare quello che devo fare, basta. Non è che ho roba né da buttare né niente, normale così. Ho la mia attività da CB che mi diverto e stiamo tutti in compagnia, che è sempre questa. Baracchini, Jaruzelski, Naggio, Renta d'Armadio, quanti ne voglio, quanto ne voglio trattare. Cose normali, essenziali, prese nell'arco del tempo, nell'arco di tanti anni. Certo, tornando indietro, ti giuro, come un fratello grande, che non lo rifarei più, assolutamente, non lo rifarei più, però oramai ci sono e basta, ma io già un paio d'anni che non compro, avevo comprato solo le antenne, fatto il parco antenne e basta, i lineari ce li avevo già, quando sono diventato radioamatore e basta, però ti giuro che mi sembra che abbia in ore forse 6-7 ore di lavoro l'amplificatore che ho io, quindi immaginati tu, non mi interessa proprio, non tutti siamo uguali, già mai compreso. Eccomi. Ok, mi hai fatto già. Sì, ma certo, ho detto qua, ma con tutto quello che hai tu, uno può fare lo stesso attività radioamatoriale senza nessun problema, non è detto che uno per fare radioamatore debba avere per forza a certi lineari o certe cose, certe radio. Quando uno ha una radio discreta e quando ha un lineare a quelle difese, che poi tra l'altro la legge è quella, quindi 500 non si possono nemmeno usare, tra l'altro, oltretutto, dunque a quel punto lì uno fa attività tranquillamente alla grande lo stesso, non è che non la fa. Poi quello te ne frega se quello anziché se riceve per dire sono 9 più 20, se riceve Santiago 9 è uguale, si sente, basta, si sente, basta, no. Il collegamento è avvenuto ugualmente, anche senza avere lineari e per far arrivare lo smitter poi a fondo scala, no, non è il caso, non è il caso. Va bene, avanti Gianni. Eccomi, allora, giusto mi serve un riferimento, voi che avete le radio più serie della mia. A livello di qualità, com'è la modulazione? La mia modulazione, considerando che ho un microfono palmare dinamico classico, volevo sapere la qualità, cioè come mi ascoltavate, nel senso il suono della mia modulazione, com'è? Vuoi un mio parere? Sì, di tutti e due, dai, sono curioso. Ma per me è la stessa cosa che ho detto poc'anzi a Tino. La radio io ti do 5 perché è chiarissima e perfetta. Però mi manca di tonalità acuta, hai toni bassi, capito? Hai medio bassi, tu che lavori col suono mi capisci, no? Mi mancano gli acuti, le tonalità alte mancano in quel microfono. Giulio? Sì, confermo anch'io, la stessa cosa, però c'è un togliere che la modulazione non sia lo stesso apprezzabile perché è ultima e chiara quella che hai fatto, poi mancano un po' di toni, quello è vero, però è apprezzabilissimo quello, magari aumentando la potenza quando avrà un'antenna più performante può essere anche che si senta qualcosina di più a riguardo dei toni, non lo so, suppongo però che un miglioramento ci sarà anche nella radio, oltre che poi nel segnale, e io penso che possa essere così o là. Poi nel frattempo si comprerà anche un amplificatore microfonico, si comprerà e dunque migliorerà ancora di più, soprattutto se compra uno di quei tuni che poi se ne regola adatti proprio alla sua timbrica. Avanti Gianni. Ehi, grazie. Sì, vabbè, come voce diciamo che la mia è molto da tenore come voce, quindi risulta già medio bassa già di natura, capito? Ero giusto curioso di sapere come andava il suo microfono originale, che è un dinamico, c'è una capsula dinamica. Era giusto così a livello di curiosità, insomma, non ve l'avevo mai chiesto a livello proprio di timbrica, com'è. Comunque va benissimo, va benissimo per quello che sto usando, quindi va più che bene. Più che altro volevo sapere cosa ne pensavate dei microfoni palmari amplificati. Microfoni palmari amplificati? I microfoni palmari amplificati ci sono anche buoni, certo, perché sono. Solo che si tratta di spendere un pochino, non certamente i microfoni da 30 euro, no? Come i DM che compravano da poco, anche quello rispetto, però non è un granché, a tutti parte quel microfono lì. I microfoni veri costano intorno ai 70, 80 euro, 90 euro, anche se sono palmari. Si conferma M300. M300 anche è buono, ma bisogna vedere se si trova M300. Io parlo dei microfoni che sono in commento adesso. Comunque diciamo, qualità prezzo, diciamo che il DM1000 è già un buon microfono, ecco. Perché secondo in che radio lo metti, con la voce che c'ha lui, che è simile, io la somiglio un po' a quella di Gianni Doppio Room, secondo me a lui un DM1000 le andrebbe bene. Ah, non lo so, bisognerebbe ascoltarlo Massimiliano, sai perché? Stavamo parlando appunto di quello che non ha attuniati, e io penso invece che lui dovrebbe orientarsi, secondo me, io questo è il mio modo di pensare, almeno sull'MP+5, se hai toni e dunque la può correggere, o perlomeno procurarsi all'evento che so io, o un partner da tavolo possibilmente, anche se ormai non ci sono più in vendita da nuove, ma usati già si trovano sempre, però non spende mai usato Gianni, mai meno di 100 euro, mai meno per un partner. Oppure un Sadelta anche, che quelli di microfonia hanno i toni alti, per vedere se la sua moglie potrebbe acquistare quei toni alti che le mancano, Massimiliano, quindi fai dire il giudizio qua. Sì, è vero, ma secondo me lui, Giulio, già cambiando radio, già secondo me migliora la situazione. Perché diciamo che è anche la radio che conta tanto, ecco, quella proprio classico terra a terra, ecco, per dirla tutta. Diciamo, se lui prendesse una radio già migliore, gli abbina un MP+5, lui risolve tantissimi problemi, secondo me. Avanti, già. Claro che sì. Io sto usando quello che sta passando nel convento, quindi era giusto a livello insomma, a livello di curiosità, considerando che il microfono lo tengo 5-10 cm dalla bocca, considerando che è il suo originale, quindi era giusto curioso sapere qual era la qualità della modulazione, non per altro. Poi per adesso va bene così, poi in cammino si accorta Mario. Sì, però devi pensare anche un'altra cosa, che fra un po' si apre la propagazione, capito? E faremo anche fatica ad ascoltarti, anche quello c'è. Sì, quello è chiaro. Vediamo cosa ci riserva il prossimo futuro e poi chi lo sa, magari succede qualcosa di bello e quindi avremo occasione di fare un passo in più in avanti. Siamo qua a aspettare, dai, qualcosa sicuramente di carino già succede. Avanti qua. Mi pare che ha ragione Massimiliano, sta salendo la propagazione e sotto io sento già un fruscio, infatti ci sono degli spagnoli che stanno parlando e quasi hanno il tuo stesso segnale, però dai, ho detto un po' di pazienza, già si riesce a mettere a posto tutto lì, a futidin, piano piano. Adesso vediamo intanto sto cavo e sostituire il cavo, poi Daniele ti ha detto che deve cambiare l'antenna. Adesso glielo dico, se te la dà quella Ringo, lui deve mettere la Energy, se te la dà quella Ringo te la faccio dare, così togli quella, metti la Ringo, senza radiali, lì c'è una buona posizione perché arrivi più di 9 con l'antenna macchina qua, quindi perciò dovresti migliorare tantissimo e piano piano. Le cose piano piano si fanno, se purtroppo non c'è la possibilità è inutile ammazzarsi. Questo hobby è costoso, è diventato molto caro e purtroppo è così. E vabbè, avanti Giulio. Sì, ma certo, una cosa è certa, oggi vabbè, vediamo il controllo, come ti ha chiesto, eccetera, eccetera, però Gianni, tornando alla tua radio, diciamo che con la massima accortezza non è che ci possiamo dare un controllo diciamo proprio fedele, quello che può essere una stazione un po' più performante, è ovvio. Adesso la radio, come diceva Massimiliano, quello è importantissimo, perché bisogna vedere che emissione ha quella radio lì, anche quello, conta tutto, dai, nell'insieme conta tutto, poi l'antenna naturalmente, le apparecchiature più moderne, ecco, perché quelle ormai sono vintage, dunque lo sappiamo, le baracchine vintage per norma avevano sempre un pochino di bassi, altri che alti, tutte queste cose vengono poi fuori con una stazione più performante, è ovvio. Dunque, sarà per la prossima volta, Gianni. Comunque, devo dirti che io perlomeno ti sento molto bene, no? Problemi non ne ho nell'ascoltarti, anche se il segnale non è altissimo, però la radio è buona, è piacevole da ascoltare anche, tutto sommato, no? Mi va bene, ecco, mi va bene, se in quel caso va benissimo. Tu magari potresti avere dei problemi quando incomincerai ad aprirti la propagazione, perché non lo so fino a che punto riuscirai a collegare ad esempio le stazioni dell'Italia e dell'Europa soprattutto, solo per questo, ma c'è tempo ancora, piano piano, non è un problema. Avanti Massimiliano. Sì, no, vabbè, io diciamo senza offesa, terra a terra ho detto, ecco, perché è una radio vecchia e cosa, però diciamo la radio è perfettamente 5, anche se è un po' bassina, però il tuo segnale qui da me è 9. E già hai un'antenna di macchina, è perfettamente a posto. Il problema sarà, Giulio, tu sai benissimo che quando si apre la propagazione ci sono segnali anche addirittura da 9.20, 9.25, quindi sarà un problema anche ascoltare a lui, diciamo, da Sassari, arrivare anche qui da noi, un esempio, ecco, se non c'è un buon segnale. Sì, quello c'è fatto, perché incominciano poi a salire il rumore del fondo e giustamente la sua modulazione sarà un pochino più difficile ascoltarla, quello è vero, quello è vero. Poi c'è anche un altro particolare, siccome quel baracchino è solamente la M, non è che può dire me ne vado in FM, o me ne vado nei canali bassi, o me ne vado nei canali alti, o me ne vado in banda laterale. No, vabbè, mettiamo il tempo a Gianni, anche lui se organizzerà, ecco, e riuscirà a piazzarsi l'antenna un pochino più performante. Piano piano, dai, piano piano, non ci sono problemi. Avanti Claudio. Gappa, ma infatti piano piano le cose si fanno piano piano, con l'andare del tempo adesso è ripresa modulare, ti hai messo un baracchinetto, un'antenna piccolina e hai muovito in giro di pochissimo tempo, con la solidarietà naturalmente anche degli altri, te l'ho detto, il cavo te lo do io, non ti preoccupare, se serve un PL te lo do io, baracchina d'arti non ne ho. Se no ti avrei dato anche un baracchino per far sì che uscissi meglio. Poi vediamo, se Daniele ti dà quell'antenna, usi quell'antenna e via, se no aspetti, continui a modulare come stavi modulando e piano piano arriverà anche l'antenna. Capito? Io ce l'avevo un'antenna, l'avevo data, altrimenti te l'avrei regalata, figurati, non mi ho fatto nulla, mi è rimasto solo il piantone. Mi è rimasto solo il piantone, davanti, per il resto gli ho dati tutti i tubi per costruire un'antenna monobanda. Capito? Piano piano, non ti preoccupare Gianni. Vedrai che le cose già si mettono a posto. Tanto, per fare due chiacchiere ti sentiamo. arrivi più o meno in lontananza, più lontani sono Franco che entra qua sul 10, Massimiliano e Giulio, quindi arrivi anche a Porto Torres. E allora cosa di Naffutti dal tuo carissimo amico genio, il genio di Porto Torres, quindi Naffutti di vai avanti così, vai Massimiliano. Sì, sì, e poi già se Daniele ti dovesse dare quell'antenna già i segnali sono più forti sia in ricezione che in trasmissione, capito? Ricevi molto meglio e trasmetti anche molto meglio. Eia, comunque vabbè Massimiliano, no, quando hai detto una radio a terra a terra non mi sono offeso, figurati, che avrei la voce. No, che vabbè, gli altri la radio l'hanno vista perché gli ho mandato la foto su WhatsApp. Forse non lo sai, ma era un vecchio baracchino veicolare giapponese degli anni 70, era dentro un camper che è stato dismesso, era buttato dentro un cassettino pieno di piubaro, non ho pagato niente, l'ho preso, mi sono preso un'antenna, ho preso anche un pezzo di capo, quindi è tutto di guadagnato, è tutto a gratis come si dice, quindi non ci sputo sopra, anzi, sono contento già di avercelo attaccato e di poter modulare, quindi no, figurati, va più che bene, il suo dovere lo sta facendo al 100%, quindi non mi sto lamentando, anzi, sono anche contento di avercelo adesso, questo piccolo apparato per poter fare il QSO, quindi non ci sono problemi. Assolutamente d'accordissimo con te, io ho detto terra a terra, nel senso che se avessi avuto una radio un pochino superiore, capito? Tipo che avesse la M, le bande, queste cose così, è di lusso quello. Io ho iniziato con Lafayette, infatti lo conto, avevo 14 anni e avevo un'antenna di macchina che ce l'avevo legata con un pezzo di fin di ferro nella zaffa che tiene il canale dell'acqua, infatti lo conto, e stavo sempre nel canale 1 a ascoltarmi i pescherici. immagino. Niente, quindi questo è quanto, adesso vi ripeto. Ci sono altre priorità nella vita, in questo momento il baracchino non è che risulti essere tra le prime, adesso insomma ci sono altre cose da risolvere, però insomma siamo fiduciosi, adesso mettiamo a posto cose più importanti, però ti ripeto, per il resto sono contento di riavvercelo e tutto fa brodo come si dice. Avanti giù. Ok, già, nel deserto. Tu pensa che io avevo iniziato con un po' di 6 canali, un baracchinetto da 6 canali e con una boomerang alta 19 oltre 20 con un radialino di una trentina di centimetri, se puoi immaginare. E piano piano, col tempo poi è venuto il vetro. Ma perché succede? Ma io penso che sia successo un po' a tutti così, o Gianni, non credere che la gente è andata e ha fatto boom, subito ha fatto cose grandi, no? Assolutamente no. Piano piano, cioè, tanto perché bisogna sempre cercare un po' e vedere la passione, eccetera, eccetera. Se a uno poi le piace, allora si attrezza e conferma la passione e allora la può migliorare sicuramente, cosa che è successo un po' a tutti, dai. Perché non è che ci vuole solo il baracchino, ci vuole un alimentatore ristretto e ci vuole uno strumentino per misurare le stazionarie e ci vuole un microfono preamplificato, insomma tutte queste cose una alla volta vengono piano piano, un po' da uno, un po' dall'altro e un po' anche comprando delle cose, uno si piazza una stazione decente e che può essere anche soddisfatto pure alla fine. Sì, sì, guarda, tu hai la fortuna di modulare con un'antenna di macchina. Io ho iniziato con una Storm che è alta un metro, pare un manico di cubolo, e non arrivavo neanche alla veloce, fatelo conto. Immagino. No, ma capisco, come si dice? Mi ci ritrovo in certe situazioni, perché anche a me mi piace un po' sperimentare la MacGyver, cazzo, con tutto quello che ti trovi a disposizione. Te l'ho detto, io questo l'ho trovato dentro un camper, infatti un gonzo, quindi va benissimo così. Adesso è a Sant'Arrangiati, poi vabbè, chiaramente nel corso della mia esperienza ho lavorato in una radio a cavallo tra gli anni 80 e 90, in una radio libera a Sassari, poi ho lavorato in televisione quasi 20 anni, quindi sono sempre in mezzo alle telecomunicazioni, dai. Anche se in forme diverse, poi c'ho un sacco di strumentazione audio, c'ho il mio impianto audio, c'ho insomma giradischi, console, di tutto, computer, insomma lavoravo parecchio nei locali a fare serate, adesso per tutta una serie di cose mi sono fermato, e quindi gli investimenti nel mio campo li ho fatti a suo tempo, quindi io so cosa vuol dire, e quindi capisco benissimo che da una base bisogna partire, quindi questa adesso è la mia base, vediamo un po' cosa succede, dai, avanti qua. Ehi, ma infatti da gente non ti voglia prescia, le cose si fanno piano piano, con la possibilità, con la voglia di fare e con la passione. Se manca quella è un casino. Anche perché facendo le cose piano piano, uno non deve se ne rende conto, non soffre più di tanto. E se invece fa tutto in una volta, allora incomincia ad essere un botto e uno se ne accorge, perché diventa pesante. Ma 10 oggi, 11 domani, 12 dopodomani e così via, ed ecco che a un certo momento uno si ritrova con quello che è le necessità senza soffrire più di tanto. Ecco com'è la situazione. Avanti Gianni. Sì, sì. Ho già avuto esperienze in altri campi, quindi la sperimentazione, il Sant'Arrangiati non mi spaventa. Ho comprato strumentazione elettronica, ci ho comprato due giradischi buttati dentro una cantina, ho comprato i pezzi al Giappone, meglio completamente verniciati, ristrutturati, insomma, ho fatto un sacco di cose, quindi bene o male, tra saldatore e cacciavite e attrezzi vari già mi diletto, quindi non è, quella cosa lì non mi spaventa. Mi sono comprato delle vecchie casse audio, le ho ristrutturate, le ho revisionate, insomma ho un bel impianto audio, insomma sono in grado di fare serate come le facevo prima, insomma di un certo livello, di quello non mi posso lamentare, capito? Quindi bene o male già ci svanetto. Ho aspettato anche lì a suo tempo, quindi non mi spaventa, quindi è tutta una norma. Avanti Massi. Beh, allora perché non ti fai dare una dritta da Giulio, scusa, e ti fai un'antenna come quella di Giulio, chi te lo fa se vai, quindi dirà, quattro pezzi di vino e ti fai un'antenna. Sì, già mi ha dato qualche consiglio, poi sono andato a smanettare su qualche forum, ho trovato anche un paio di video molto interessanti sulla Game Master autocostruita. Sì, sotto quel punto di vista ho avuto molte informazioni, quindi vediamo cosa riusciamo a combinare, dai. Visto che c'è questa possibilità che sei un po' che ti diverti a fare queste cosettine, ti infetta la fai tu l'antenna, capito? Spendi poco e hai molto. Con 35 euro ti fai l'antenna, 35 euro esagerando anche, per cui va benissimo così. Diciamo che va bene, o Gianni, va bene, soprattutto a livello del TVA, non crea problemi, questo te lo posso garantire, perché l'ho fatto io e so che va bene, tanto più che io la mia antenna è vicinissimo alle antenne TV, ma vicino alle distanze di 2 metri, è tutto filadiccio alla grande. Naturalmente usando sempre potenze basse, poi se uso potenze che io non ne ho, non saprei che cosa può succedere, però usando il normalissimo paracchino così, oppure usando anche il K come quello che ho io, dandogli anche 50 watt, ho visto che non succede niente, va bene ugualmente, anzi devo dire che l'ho aumentato anche di più e non succede niente. punto di interferenza, eccetera. Va bene, va bene. Devo dire che va bene. Interessante rispettare le misure. Quello è fondamentale. Avanti Claudio. Io ne ho già parlato con lui di questa storia e glielo ho detto tu affidati a Giulio, lui ce l'ha fatta con antenne a dimestichezza e è abbastanza preparato nell'autocostruzione, conosce i cavi a perfezione, quindi ti dà una mano. Io cosa ti ho detto a te? Comprati un'antenna, una canna da pesca, procurati una canna da pesca. Se tu, io non ne ho, io non sono un pescatore, quando senti a Gianni Doppiorum chiediglielo se c'è una canna da pesca che non usa, qualcuno che ha una canna da pesca che non usa, dismessa, tu dai quello che Giulio ti chiede, che poi se serve qualcosa la mettiamo noi, ma procurati almeno una canna da pesca e una mano ti si dà per costruirtela. Anche Franco te l'ha detto, no? Franco se l'ha fatta lui ascoltando i consigli di Giulio. Se tu ti procuri il materiale proprio minimo indispensabile, l'antenna insomma si fa, ecco, tutto qui, capito Gianni? Sì sì, l'ho già capito a suo tempo, quindi no. Va bene così per adesso, va bene così, sì, le informazioni ce le ho tutte, schema elettrico, misure, coefficienti, capacità, impedenza, c'è tutto, ho scaricato un bel po' di materiale, quindi da quel punto di vista praticamente sono abbastanza informato. E adesso, appena possibile, metterò la cosa in cantiere e la facciamo questa antenna, dai. A meno che non spunti qualche altra occasione. Avanti giù. Oh già, se tu vai lì di fronte al supermercato, dove è quel napoletano, ci sono le canne da pesca a 7-10 euro, se la prendi una vena da lì, capito? E ve la fate un sabato, capito? E si fa questa canna da pesca, costa una decina di euro, almeno, non è che costa neanche milioni. Sì, sì, ho visto, so più o meno come sono i prezzi. No, già si può fare, si può fare. Voglia. No, già la facciamo, quello non è un problema, la facciamo. È la prossima cosa che mettiamo in cantiere. No, vabbè, riguardo al TVI, io l'antenna che ho l'ho messa sul palo dell'antenna della TV e devo dire che non fa assolutamente nessun disturbo, quindi da quel punto di vista sono abbastanza tranquillo, Massimiliano. Vieni avanti, dai. Positivo, aspetta ascoltando la bassa, qua è Giulio. Ok. Sì, ma come ti avevo detto l'altra volta, da Decathlon 16 euro, 7 metri ho già detto. Da 7 metri, 16 euro. Come ti avevo già preannunciato l'altra volta, non deve essere una canna a pesca che sia a carbonio, no, deve essere proprio isolante al massimo, non ci deve essere metallo. Tutti quegli anelli che ci sono, eccetera, quelli si tolgono perché li devi richiudere e poi si mettono i collari, ma sono un paio di collari dove appunto cioè, va ad stringere gli elementi della camera pesca, niente di più. Si può mettere anche l'acciaio inossidabile, così almeno non si avviciniscono e non si marchisce la camera pesca. Va bene, quello è importante. Bisogna sottolineare, però ripeto, la punta è troppo sottile. Ora, o decidi di metterla esternamente, fissata a ogni 20-30 cm con l'altro, il filo, o perlomeno se opti ad infilare il filo dentro, la punta finale la devi sostituire con un altro spessore di canna da pesca, un pochino più robusto, in modo che si possa passare il filo da 2,5-3 mm. Grosso modo, perché se no non entra, perché la punta è troppo sottile, bisogna sostituirla con la punta lì, ma è una cosa fattibilissima, non si spende niente per fare quello, per cui va bene così. Avanti Claudio. Sì, infatti, cioè, adesso vediamo già. nelle possibilità, purtroppo siamo rimasti in pochi, ma vediamo di cercare di darti una mano, di metterti in condizione di poter uscire bene, dai. Come abbiamo sempre fatto un po' per tutti, io perlomeno il mio contributo l'ho sempre dato. Adesso il cavo te lo procuro io, un PL nuovo, l'antenna rimetti quella momentaneamente e poi aspettiamo se procuriamo l'altra, mettiamo l'altra, se non una soluzione la troveremo, dai. Mi squilla il telefono, vai Massimiliano. Riprendi Gianni, Massimiliano si è allontanato un attimo, riprendi Gianni. Eia, allora, tra tutte le cose che sono riuscito a trovare, ho trovato il video, l'ho scaricato da YouTube, ho trovato il video di un ragazzo di Trieste, ragazzo, ha più o meno la mia età, 53. Praticamente ha fatto un video sulla costruzione della sua Game Master e il video dura 15 minuti dove praticamente spiega tutto dall'A alla Z. Infatti una volta che finisce di costruirla la attacca praticamente alla sua radio Yaesu e riesce anche a fare un DX con quell'antenna lì. Quindi cioè, dura 15 minuti e questo ragazzo spiega dall'A alla Z tutta la costruzione dell'antenna e lo fa in modo chiaro, semplice e comprensibile. Quindi già da lì a livello manuale, cioè ho fatto la ripresa con la videocamera di cosa stava facendo e quindi già quel video di per sé mi ha aiutato tantissimo. L'ho scaricato, me lo sono guardato l'altro giorno, quindi a livello di fattibilità è abbastanza facile, quindi non ci dovrebbe essere problemi, capito Giù? Avanti. Certo Gianni, beh certo, evidentemente ci stai documentando come si deve, là. E va bene, no, ce ne sono tanti video, vuoi sempre controllare, vedere, poi quello che ti dica, ma chiedi e fai quello. E poi devo dire una cosa, autocostruirsi un'antenna è una soddisfazione ancora maggiore rispetto a quella che uno magari se la può comprare nuova. Perché? Perché è una cosa fatta da te e ti dà più soddisfazione. Perlomeno quello è nella norma dei radioamatori, di quelli appassionati della radio. Autocostruirsi le cose, quello sarebbe l'ideale. E dunque, siccome l'antenna è fattibilissima, si può fare, la può fare chiunque. E io quando l'avevo appena letta Franco, guarda, Franco mi ci ha piegato molto lì. In pochi giorni, 3-4 giorni si è piazzata anche lui l'antenna e si era piazzata addirittura in facciata a filo di muro, che si può immaginare, eppure ha visto come esce discretamente, non ci sono problemi nell'ascoltarlo e nel farsi ascoltare, per cui non è quello il problema. Sarà di Francesco Luna Rossa per caso, Radio Killer per caso? Ho ripreso? No, adesso non mi ricordo esattamente il nome di quel tizio, comunque è uno della zona di Trieste, il video è, te l'ho detto, è chiaro, semplice, molto intuitivo, spiega passo per passo cosa fare. Non mi ricordo a dirti la verità in questo momento come si chiama, quindi ti direi sbaglierei a dirti un nome diverso, quindi non mi ricordo adesso. Comunque è abbastanza completo. Poi ne ho scaricato un altro di un ragazzo di Bari, se non sbaglio. Anche lui, questo è un video un attimino un po' più corto, dove praticamente fa vedere anche lui come si è costruito la Game Master, anche quello molto interessante. E niente, sono tutti e due video abbastanza completi, nelle spiegazioni, nei valori, insomma, per tutto il resto. Quindi ho una buona base da cui partire, capito? Avanti Massi. Sì, dai, avevo un altro paio di passaggi e poi me ne vado giù, là. Comunque qua sta di più. piovendo di rotto. Che poi tra l'altro io ho avuto modo anche in una giornata di preparazione, tutto l'anno scorso, di collegarlo. Ci siamo sentiti al baracchino, ci siamo sentiti, dunque so benissimo, lo conosco benissimo, via radio naturalmente, no, lo conosco benissimo e so chi è. Lui è uno dei primi che in Italia che ha incominciato a costruire quelle antenne, che poi tra l'altro li commerciava anche, le vendeva intorno a me 70-80 euro credo, o una cosa del genere. E poi da lì è incominciato un po' il modo di fare un po' di tutti, un po' perché hanno copiato, un po' perché ognuno vuole fare da sé, ed ecco che si è sviluppato e si è ingrandito anche il sistema di autocostruzione. Vabbè, avanti Gianni. Sì, Francesco, Radio Killer, sì, è lui. Ho scaricato il video riguardo alla Game Master, l'ho scaricato dalla sua pagina YouTube, poi ho visto anche altri video, perché lui si diletta, è preparato per fare riparazioni, ho visto che insomma ci sono nella pagina sua YouTube ci sono vari esperimenti, varie prove di lineari, di radio, insomma. È uno che ci dà da fare, dai, già ho visto che ci smanetta parecchio. E niente, quindi ho preso informazioni anche da lui, dai, quindi ne abbiamo adesso informazioni. Va bene, avanti Massi. Sì, positivo, c'è un po' di propagazione anche sotto, sento. Dai che già ce la fai, quattro vini, insomma, cioè alla fine sono due pezzi di filo di corrente, quelli già te li posso dare anche io, problemi di quello non c'è. Bene meda. Dai, alla fine, guarda, personalmente per il momento, cioè non è che aspiro a chissà che cosa, cioè l'ideale sarebbe riuscire ad avere più avanti magari un apparato che abbia almeno anche l'FM, l'SSB e poi sono a posto. Ti ripeto, non ho grandissimi obiettivi in quel senso. Una radio carina, AM, FM, SSB e poi siamo a cavallo. Avanti giù. Ok, sì, beh certo. Certamente, o Gianni. Ma te l'ho già detto la vostra volta. Orientati su un superstar, un 3009 oppure un 6009. Siamo a livello di 160-170 più o meno. Per cui di chi arrangi ce l'hanno e ce l'hanno anche le bande laterali. E vanno bene, devo dire che sono radioline che vanno bene. Uno non è che può andare a spendere 400-500 euro ad esempio tipo un magno tanto per fare un esempio quello da 80 watt, perché ci sono diverse versioni di magni, c'è quello da 40 watt, c'è quello da 80 watt, però quando comincia a portare intorno a 450, una cosa del genere, trova di là, non ti serve, va bene uno normalissimo almeno per il momento per iniziare, poi sarai tu a vedere con le tue possibilità prendere un qualcosa di ancora più grande, ma c'è sempre tempo per quello, c'è sempre iniziare. Avanti Gianni. Eia. Sì, già ho visto che su eBay ogni tanto sono sguardo. 400 watt, vabbè, me lo compro io e Massimiliano, 600 watt, 600 euro l'avevamo pagati. Un bel po' di materiale riguardo all'HF, al CP, insomma, cose del genere, quindi la roba già si trova, non è un problema. Avanti Massi. Sì, e poi c'è anche il magno, quello da 175 watt, Giulio. Quello che ha la pancia sotto, però il Cobra ancora se lo mette in tasca questo, a quello che c'ha 175 watt. Ma va bene anche quello meglio, Claudio, mi sembra che ce l'ha un 360, bande laterali AM FM, da quasi 20 watt a voglia. È nuovo nuovo, ti abbina un bel microfonino, si è a posto, non c'è bisogno di spendere per forza 150, 170 euro. Ehi, se devo superare ne ha più di 20 watt. Guarda, tu se lo vuoi, io ce l'ho un baracchino, sì, io te l'ho fatto anche sentire, capito? Io ne ho baracchini in vendita, senza spendere molti soldi, sono baracchini seri, come il Superstar 360, che va molto bene, quello con un'ottantina di euro tenisci, anche col microfono normale inizialmente, quello spinge molto bene, capito? E poi magari ti puoi abbinare un MB più 5 e tu ci sei arrivato. Ma non c'è 20 watt, è un'antenna modesta, senza fare tante cose, sia a cavallo, non c'è di più di 150 euro. Il Cobra Gurumagno, ma non vedo come ancora la mascherina, Massimiliano. Il Cobra quello ci abbiamo noi, con lineare sotto la faccia come il Magno, quasi 200 watt in SSB. L'ho provato in 10 metri a 28,550 un giorno con uno della provincia di Roma. Si è assultato quando gli ho mandato anche la foto, perché mi ha detto guarda, mandami la foto, ti do il numero di WhatsApp, gli ho mandato la foto, si è assultato, non vi dirò via. Ho detto guarda ancora sto modulando. C'avevo il turner più 3 basso, perché in banda laterale spinge in una maniera impressionante. La potenza era intorno ai 180-190 watt IEP. Ma ha usato un buon pochissimo SSB. Mi manda a tagliare 10 metri. Ho già magno. Un gobbo è un serpente. È un serpente. Capito, caro Gianni? Le cose piano piano si fanno. Piano piano. Dal momento in cui tu decidi, hai disponibilità e vuoi comprare un baracchino, tu dillo a me, io ti faccio spendere una cifra modestissima, ti do un baracchino serio di qualità che ti permette di fare quello che ti piace, tranquillo e sereno, bello, nuovo e funzionante, no cagati che a voi non si viene nulla. Capito qua, grazie a tutti. Che insomma in questo momento la mia situazione è un po' delicata, non sto in radio a parlarne, quindi va bene così adesso, quindi al momento suo già arriva tutto, dai. Allora futtiditi, guarda, a me qua devono comprare, qua c'è Giulio e Massimiliano, qua devono comprare queste radio tipo 440, 140, 680, 430. Il primo che mi cercano sempre a me, no che c'hai, perché da te mi fido. Io ne ho veduto tantissimi, ma tantissimi, sia in Sardegna che fuori della Sardegna, non ho mai avuto una lamentela con le radio che ho venduto, mai, perché io se una radio ha un difetto non te la do per disfarmene. Io ho il 430 che è eccezionale, meglio del 440, però dopo che lo tengo un'oretta in funzione si spegne da solo, è un difetto, non è una cosa, non si deve spegnere, quindi non lo posso dare, capito? Quando deciderò di darlo, lo darò, che la radio deve essere a posto, perfetta, quindi è così, io è così, guarda quello che è Giulio, è un gioiello, eppure una radio che ho comprato io, ho venduto e Giulio l'ha comprata usata, ma chiedere che radio è, purtroppo sono radio che hanno una certa età e con l'andare del tempo hanno un difetto solo, che si scarica nei condensatori e ti lasciano a piedi, ma quando tu ogni 2-3 anni la mandi a revisionare, guarda, questa mia è la terza volta che la mando a revisione, purtroppo non la posso più vendere perché costerebbe un capitale, me la tengo perché è sempre funzionante, è sempre revisionata, sempre in ordine, come farà Giulio da oggi in poi, perché l'ha già fatta revisionare anche lui, per revisionarla ci vogliono tanti quattrini, quindi le radio vanno usate bene, bene, bene, Giulio mi conosce, Massimiliano mi conosce, ho radio d'attacco. Io posso dire che la mia trazione è vintage, ok, non ho radio di ultima generazione, ma se tu trovi un graffio sopra una mia radio io te la regalo. Vai Giulio. Confermo io, perché io non vi fa più volte la tua stazione, per cui confermo quello che stai dicendo. Certo, siccome sono apparecchiature che costano un po' di soldi, e i soldi uno li guadagna lavorando, per cui è meglio per tenere bene, già lo credo. Poi ci sono le focazioni, per così dire, o Claudio, che non deve fare niente, la trattano proprio, la cosa la trattano proprio male, malissimo addirittura. Perché già se ne sono viste tante di radio, tutte quante graffiate, tutte messe male, tutte toccate, per carità. Però quando le persone si conoscono, allora si può comprare la radio usata di seconda mano e anche di terza, quando si conoscono le persone, perché no? Ma quando cominci tu a trovare certi tipi di persone che non le sanno trattare, allora quel braccio li prende, non le comprare nemmeno, anzi non si fa mai nemmeno di acquisto con quelle persone lì, perché non va bene. Bisogna sempre orientarsi alle persone che hanno sempre avuto passione per la radio, che la trattano bene, che sappiamo e siamo tranquilli, in modo che se uno deve spendere una certa cifra, la spende bene. Non a buttare i soldi, perché magari subito una pregatura, come è successo anche dal continente, lì tante persone hanno comprato alcuni e poi si sono trovati con un pallonbricchio in mano. Certo, succede anche quello. Avanti Gianni. Sì, non dubito della serietà di Claudio. non mi viene neanche in mente a pensarlo, quindi no, Claudio, non ci sono problemi, tranquillo, figurati, non è un problema. Non metto in dubbio la tua serietà, sia come persona che come radioamatore, che come CP, quindi è fuori discussione. E niente, ti ripeto che insomma è una situazione delicata per me, in questo momento la radio è anche questo, ogni tanto mi fare questione, mi distrae, quindi va bene così, mi fa piacere. Vediamo se c'è ancora Massimiliano. Massimiliano? Sì, dai, io riprendo saluto, a voi ragazzi, questo è lo conto di Cantonaggio di 740, Cantonaggio comparato e Cantonaggio venduto, non me la metto manco più. Va bene, dai, io vi saluto signori, buona continuazione, qua se no, me ne scendo un po' giù, ho acceso la stufa, sta meglio di qua, ci sentiamo le prossime, ok? Poi ci aggiorniamo Moto Zappa, là. Ciao, buona serata, Giulio, Claudio, Gianni, tutti quelli che ci sono in ascolto, che sicuramente sono tanti. Ciao. Ehi, Massimiliano, dai, io metto appresso Giulio, ritorno dopo e vado a portare un attimino il cane giù, se si trattiene Gianni, continuate voi e ci sentiamo tra un attimino, ok? Riprendi Giulio. Ok, d'accordo, ciao Massimiliano, intanto grazie per la chiacchierata, dai, alle prossime, fate sempre sentire che è un piacere fare quattro chiacchiere tutti insieme, visto che noi siamo una rotta, per così dire, figlia. Non parliamo di niente fagiolo, come intervate, no, senza pulire, già facciamo perdere, come l'ho detto. Ciao, qua, a dopo, eventualmente, ci siamo ancora. Vai Gianni, per salutare Massimiliano. Ok Massimo, ben sentito, grazie a QSO, dai, ci aggiorniamo alle prossime. Buona serata. Vabbè, Claudio ha detto che ritorna tra poco, quindi lo sentiremo a breve. E questo è quanto. Sì, ho visto, insomma, a parte il canale 10, avevo sentito gente tempo fa su altri canali, ma poi è sparita. Ero anche curioso di sentire anche altra gente. Sì, mi piacerebbe avere qualcosa di più performante, in modo da poter fare qualche DX in futuro, perché mi sono sempre piaciute queste cose. A suo tempo, molti anni fa, a casa di un amico, qualche DX già riusciremo, cioè riuscivamo a farlo, abbiamo parlato insomma con il continente, anche una volta siamo riusciti a parlare col Portogallo, e quindi dai, fare DX già è carino, sentire anche amici oltre il Mediterraneo, già sono cose belle, mi fa piacere sentire appassionati anche dall'altra parte del Tirreno. Cose carine, quindi la radio è bella anche per questo, praticamente il vecchio internet, diciamo, dai, e quindi sono rimasto affascinato da questa cosa qua. Avanti giù. Sì, Gianni, beh certo, infatti è bello, perché è appassionato per la radio, è bello quando fai un collegamento a lunga distanza, prima si usava per spedirsi le cartoline proprio a conferma del QSO che si faceva, io ancora ne ho di queste cartoline, un cassetto ne ho, e poi alla fine è uscito di moda, hanno fatto le cartoline e tanta gente magari le mandava e non ce la ricambiavano, e succede anche quello, certo, ci mancherebbe. Però come la vedi ad un grande distanza se ne sono fatti tanti, anzi ne ho fatto addirittura lunghissima distanza. Io sono riuscito a collegare una volta la Florida, si può immaginare. Sono arrivato in Florida, che c'erano un italiano, una famiglia italiana che abitavano lì in Florida, c'è una borgata, come può essere ad esempio i Punti oppure Sant'Orso, eccetera, no? Dove sono tutti italiani. E mi avevano confermato questo qui, che loro vivevano lì da anni, per cui arrivavo bene. Eravamo 2 anni fa, di mattina, eravamo un giorno feriale dei 2 anni fa, e non è facile arrivare in Florida, ma quando c'è una preparazione buona, che si apre veramente bene, allora è facile parlare, anche dalla macchina si può parlare tranquillamente, non è la prima volta, e centinaia di volte abbiamo fatto collegamenti anche dalla macchina, per cui ma ormai dalla macchina io non ne ho più, non ne ho più messo, e tanta gente ormai non si ce l'hanno la macchina, ce la sono Eugenio a Sassa, mi sembra, gli altri non ce l'ha più nessuno, fino a poco tempo fa ce l'aveva anche già il doppio lupo quando aveva un'altra macchina, ma adesso che se l'ha cambiata la macchina non la vuole bucare per mettere l'antenna e va bene, e dunque non lo sentiamo, se no lui la sera appena che chiudeva il negozio dove lavora e già da portatore entrava, faceva prezzi, arrivava che era una bomba, era perché aveva anche un lignaretto da 100 watt che poi ne dava 80 più o meno, invece che andava benissimo, per dire, no, perché sono soddisfazioni, là io ho già perfetto, comunque con una antenna buona anche con quello che hai tu stai tranquillo che puoi fare il DS. Certo, se fai in banda laterale è ancora meglio, ma siccome la banda laterale tu non ce l'hai, per cui è più difficile, dai. Anche perché in banda laterale c'è più potenza, lo sapete questo, no? Che un barattino che ce l'ha per 25 watt in AM, in banda laterale ce l'ha 21 watt. Avanti Gianni. Sì, su quello sono informato. Qualcuno ti ha sovramodulato, aspetta, vediamo se c'è. Avanti. Qualcuno ti ha sovramodulato giù mentre stai parlando. Vabbè, se ha voglia di entrare il canale è aperto. Sì, conosco bene le caratteristiche della banda laterale. So anche dell'incremento di potenza. Su questo sono abbastanza informato. Sì, aspettiamo di avere la possibilità di fare qualche DX, perché sono cose abbastanza divertenti, fanno piacere, dai, quindi vediamo un po' cosa ci riserva il prossimo futuro a livello anche di propagazione, e quindi aspettiamo fiduciosi, avanti giù. Ok, già, certo, sai che adesso quando incomincia la propagazione già sarebbe più divertente, perché si sentono più persone da fuori, anche da tutte le parti d'Italia, e non solo d'Italia, anche da tutta la parte d'Europa, Spagna soprattutto, Francia, Germania, Portogallo, tutte queste cose così, tutti arrivano, tutti alla grande. Naturalmente ci sono dei momenti che magari arrivano, che sono io, anche 9 più 10, e ci sono dei momenti gente che ti arriva a Santiago 3 e c'è che la preparazione è così, che la valentenza, no? delle onde radio, delle RF, per cui si fa, funziona in questo modo. Ecco, appunto per quello vi dicevo che la banda laterale invece ha più probabilità di avere un collegamento un pochino più performante, invece considerato che la banda si dà più, cioè che il canale si dà più basse, anziché 5 c'è la 21. Poi c'è il canale nazionale della banda laterale che è 27.552. Praticamente la frequenza quella, no? Corrispondente al canale 52 per l'esattezza, però parte anche da 27.550 fino a 560, 65, anche 70, e dunque la gente si divide su quelle frequenze per fare collegamenti in banda laterale, anche perché il canale monitor, per così dire, quello 27.555, corrispondente, come ho detto, al canale 52, lì c'è un affollamento maggiore rispetto agli altri che sono poi vicini praticamente al canale ADS, e dunque è più facile fare collegamenti nei canali ADS che in quello, perché quelli del canale unico e tutti vanno lì, sembra che ci sia il miele in quel canale. Mi sono spiegato già? Sì, spiegato benissimo. Invece il canale 45 a che frequenza si riferisce? Giù. Il canale 45, un attimo, il canale 45 è il canale dei camionisti, dove entravano i camionisti, dunque anche lì ci sono collegamenti abbastanza, lì ci sono camionisti addirittura con lineari da dire del bus, che si può immaginare, e diciamo che non è pulitissimo, però se uno ha un po' di potenza già riesce a entrare, perché non è pulitissimo, nel senso che si accampano l'uno sull'altro, capito? Ecco, è quello che è. Ecco, ad esempio Massimiliano lo utilizza molto, ma lui è in grado di poterlo fare il canale 45 proprio per quello motivo, forse ha degli amici, non lo so, perché ha sentito tante volte e appena che lo sentono lo fanno entrare tranquillamente senza nessun problema. Ci vuole passione anche per quello. Buonasera, ciao Giulio, c'è anche Gianni. Oggi sono solo per dirti una cosa, ho trovato l'amico Pino, mi ha detto di farti sentire e così via, non so, ma voglio rivederti. Bene, io ti saluto, ti chiedo scusa, ma c'ho gente a casa e sono solo a dirti questo, tutto qua. Avanti Giulio. Ok, grazie per l'informazione, Marino, ci sentiamo, grazie a te, dai. Sei Gianni con me dalla zona stazione. Avanti Gianni. Sì, non ho ben capito chi era, forse Marino, comunque, ben sentito comunque, va bene così, buona serata, se non l'ho capito male, vabbè, comunque, adesso chiederò a te giù, conferma, non ho sentito il nome, va bene, dai, ti rilascio il mic giù, va avanti. Ok, sì, era Marino, sì. È entrato per darvi un'informazione. Va benissimo, sì. Ecco, lo stesso Marino è un vecchissimo CD. E io mi ricordo, lui allora, in quegli anni di allora, dai, ma io sto parlando negli anni 70, una cosa del genere, negli anni 70-80, con una boomerang tranquillamente faceva 10 anche lui. Però la posizione era in una buona posizione, praticamente a Montevideo Medio era allora, adesso no, adesso abita in un altro posto. Ma prima abitava lì e dunque riusciva a fare dei bei collegamenti anche con una semplice boomerang, niente di più. Praticamente simile all'antenna di macchina, ecco, o già. Sono rientrato, eh? Ok, va. Avanti, qua. Non so di cosa stavate parlando, va. Riprendi tu Gianni, no, per avvisare il solito per un momento più vicino, allora. No, stavamo parlando del fatto che personalmente ho detto che appena avrò la possibilità mi piacerebbe fare qualche DX, chiaramente una volta che avrò la radio giusta a disposizione. Con Giulio stavamo parlando dei vari contatti, dei vari DX che ha fatto lui, delle varie cartoline che si facevano allora, che praticamente è un'usanza che che quasi si è persa, della propagazione, insomma, dei vari collegamenti, vari che si sono fatti. Dai, l'ultimo, quello che è riuscito a fare qualche anno fa, con gli Stati Uniti, con un italiano che era migrato lì, insomma, si stava parlando un po' di questo. Avanti, qua. Beh, allora erano altri tempi, con poca cosa, con c'era propagazione. Si facevano i collegamenti, ma anche adesso non è un problema, chiaro, ci vuole la propagazione, senza la propagazione non si può fare niente, anche con pochi watt, quando la propagazione è buona ti aiuta e si riesce a fare di tutto di più, capito? Va bene, riprendi giù, che mi metto nuovamente la mia tutina e ci vado a rivido per oggi. Ok, qua, sì, certo. Ripeto, sì, 2 anni fa, di mattina, sabato mattina eravamo, ricordo, avevo collegato uno nella Florida e Stati Uniti d'America, e ci vedo, no, ma tutto dipende dalla propagazione, ovviamente, se la propagazione è buona, veramente, allora, l'RF sale all'ultimo strato, lunare praticamente, è rimasto dall'altra parte della terra, ma se non c'è buona propagazione non c'è niente a fare, non c'è niente a fare assolutamente. Il discorso è questo. No, capita, dei giorni favorevolissimi, molto favorevoli, che appunto si può fare anche un collegamento così a lunghissima distanza. Va bene, dai. Avanti Gianni. Sì, sì. Sto per dire una cosa, mi sono appena fatto una sigaretta. ho visto sempre spulciando su internet, ho visto diversa gente che ha fatto i suoi DX, anche gente straniera, un tizio svizzero, un altro ragazzo inglese, insomma, se ne trova su internet di materiale, insomma, gente che fa DX, questo ragazzo che, insomma, adesso mi ricordo se è di Roma, se non sbaglio, che stava parlando con la Spagna, con le Canarie, no, già, insomma, interessante, dai, si trovano delle cose carine anche su YouTube dei DX. Adesso stavo cercando qualche canale di qualche radio amatore, di quelli vecchi a scuola, vediamo un po' se riesco a trovare qualcosa, sono incuriosito, vediamo un po' cosa riusciamo a trovare. Avanti giù. Brecco? Avanti Brecco. Ciao Giulio, dai. Sto riprovando questo piccolo baraccino. Ho preso in considerazione il segnale di Claudio. Claudio. Eia. Fa il favore, perché sono Brecco, ma le pippe che magari dà fastidio. Com'è qua il segnale? Questo è quello tuo però, è 9.5. Adesso provo ad attaccare un amplificatore, vediamo se distorce, così almeno se non va bene lo elimino. Giusto una prova, così mi dai anche conferma tu Giulio, D'accordo, d'accordo, prova pure, siamo qua, non c'è problema. Ora, eccolo, questa è la prima potenza, mi dite se va male di radio o meno. Hai la possibilità di abbassarla appena, come ingresso, fare qualcosa? No, perché ho 4 watt. Segnale fortissimo, ma la modulazione è un pochino satura, comprensibile, ma è leggermente satura. Lo puoi anche lasciare attaccato, è per l'emergenza, è comprensibile, però è satura, vero Giù? Sì, certo, sì, poc'anzi ho chiamato Franco, Tino volevo dire, dai, ho sbagliato. Sì, va bene. benissimo, il segnale è fortissimo, Tino, 9 più 22, 23 anche modulati, sta vicino a 25 dunque, per cui va bene, sì, in effetti è leggermente compresso, sì, è vero. Bene, questa è l'altra potenza, credo che magari peggiori, però non so se va in, in rovina o meno. Peggio, peggio, peggio. Vero? Ok, da eliminare. Allora, da eliminare, Claudio. No, di meno non posso dargli il watt. E di segnale quanto andava? Molto? Sì, da 9,5 passi a 9,25. Così? Guarda. Sì, sì, 9,25 da me. Sì, anche da me, 9,25. Sì, 9,25, però la modulazione si era peggiorata un tantino, sì, è vero. Va benissimo. Da 9,10 si è passato a 9,25 o Tino. Grappa, là, 280, non è che non sono pochi. 280 watt valvolare, però non posso attaccare nessun'altra radio, quindi sono costretto a eliminarlo, perché non ho una radio che riesco a passare il watt di entrata, come stava dicendo Claudio, giustamente, magari sono anche troppi 4. Poi, scusa un attimo qua, poi se dovesse considerare l'antenna, quella che è, come dovrebbe effettivamente essere la mia, io penso che superi anche i 9,30, sicuramente così, ripeto, 9,25 con il dipolo che ho io, ma se dovessi mettere l'antenna al suo posto, praticamente 6 metri più in alto, o magari la Mantova Turbo, eccetera, sono sicuro che superi anche i 9,30. C'è anche Gianni, c'è, davanti o Tino. Capisco, sì. Ciao Gianni, ciao anche a te. E ogni tanto ho fatto delle prove, dai, volevo vedere se potevo abbinare questo microfono con questa radio e con questo amplificatore, giusto per lasciarlo tutta una linea, diciamo, ecco. Non so, potrei fare qualcosa nella camera eco se cambia la modulazione, ma non credo. La camera eco ho fatto che aumentare il volume del radio diventa una più cattedrale come voce, dai, però già si capisce lo stesso, con quello non ce ne sono. Ma devo dire che la preferivo senza l'eco, questo perlomeno per i miei gusti. Vai. Anche io, lancio il mic a Claudio, adesso me lo tolgo e lo metto normale, ma proviamo magari anche normale se cambia qualcosa, ok? Sì, curiosità, ma questa è l'Alan 48? Sì. Allora, se tu l'Alan 48, te lo dico perché l'ho fatto io, ok? Poi l'avevo dato e me ne sono comprato un altro. Allora, se tu quell'Alan 48 hai quell'abbinamento e le vuoi lasciare quell'amplificatore, apri la radio, a metà della radio, subito dopo praticamente il finale o prima del finale, comunque c'è un trimerino solo, quella è la potenza, ti metti lo strumento e te lo porti a 3 watt, ok? 3 watt scarsi, e fai la prova prima di chiuderlo con l'amplificatore. Se la cosa è fattibile, se quello è il suo abbinamento con quell'amplificatore, lo vuoi usare solo con quell'amplificatore, te lo puoi tarare dall'interno, perché devi eliminare l'amplificatore? Lo so, claro, vedi, questa è normale, non devo fare una, devo eliminare la camera d'eco per poter fare, non c'è on off, capite, perché se lo spengo inizia a fare brrr, non riesco a capire il perché. Comunque, tenendo conto che il microfono sempre normale è questo, adesso io faccio un passaggio giusto per farvi capire l'amplificatore, che mi dice se ha cambiato la modulazione o meno, credo di sì comunque. È sempre satura, non cambia assolutamente niente, ti dirò, con l'eco è molto più alta perché riesce a comprimere un po' la saturazione, con questa addirittura è quasi incomprensibile. Va bene, dai, niente. Dovrò trovare 10 minuti per farlo, grazie, ma adesso no, non fatto. Va bene, comunque è un'idea, potrebbe essere un'idea e vediamo, se va l'ottengo. perché se no lo elimino, è inutile che ho una cosa mastodontica che dà tanti watt, ma non si capisce il radio, non mi spiega niente. Preferisco una cosa piccolina ma che sia prepotente. Attacco l'altro, ok, grazie. Tino, quando sente Massimiliano ti dice esattamente dov'è il trimerino. A me me l'aveva fatto Gigi. Ok, tant'è vero, l'altro che ho comprato, perché io non uso il lineare su quello, anzi uso il 747 che va benissimo, l'ho portato a 8 watt, da 4 a 8 watt, col 747, ok, non satura niente, perché sino a 10 watt glieli puoi dare al 747, quindi non satura niente. Sull'amplificatore a valvole sta dando troppo ingresso, quindi devi cercare di abbassarglielo, e vedrai che funziona benissimo e lo tieni solo con quell'abbinamento lì. Sì, prova, ci sono, sì. Alla grande. Sì, vabbè, no, vabbè, era un'uscita di testa che ho fatto, adesso lo provo con il 48, se va bene, se no, perché la copiata io lo volevo mettere con il Lincoln, visto e considerato che hai fatto il regolato, però anche quello è allineato, come si suol dire, e quindi niente, bisogna fare le cose con calma e bene. Ok, Gianni, ripeti. Veia, ben sentito? Ben sentito te, buonasera. Sì, ho visto che ci stai dando dentro, come si suol dire. Va bene, Mera, tutto fa brodo. Va bene così. Avanti giù. Ok, sì. Sì, guarda che quello che ha detto Claudio, sicuramente è quello, il fatto che diventa a cupo, cioè strappa praticamente, proprio perché c'è troppo ingresso. Abbassalo veramente, se proprio lo vuoi utilizzare con l'amplificatore, che senz'altro rimedia da quella situazione, proprio così, se dai pochissimi watt in ingresso, sicuramente la modulazione sarà molto ma molto più pulita, anzi addirittura chiara. Perché sinceramente parlando c'era un po' di compressione, però si capiva ugualmente quello che dicevi, e dunque è dovuto appunto al troppo ingresso in alimentazione, nell'alimentatore lineare. Se avesse delle linee di meno sicuramente migliora anche la modulazione. Vai Tino. Sì, positivo, e vabbè, Giulio, sono cose che dovrei fare con calma. Dedicarmi solo per quelle cose lì, perché quando ne hai un po' di radio, prova questo, prova quello, commutatore di antenne e quant'altro, insomma, era un po' difficoltoso. Comunque è una buona idea, quando ne ho voglia mi ci metto, prima di toglierlo dai piedi, diciamo, tra virgolette, e portarselo in un altro posto, lo provo, certo. No, l'ho preso un CTS 747 stesso per mettere questa radietta, giusto per dare un aiuto in più. No, vanno bene 747. Allora, però hai detto una cosa che mi fa un po' pensare. Allora, tu non lo stai provando l'amplificatore a valvole diretto, vero? Lo stai provando con il commutatore attaccato, commutatore d'antenna, bim bam. Beh, non è diretto, ha due commutatori d'antenna, quindi sì, non è diretto. Allora, la prova tu con quell'amplificatore devi fare diretta, alla 48, cavetto, lineare, basta. Ok, perché, qua c'è Giulio che mi può correggere se sbaglio, perché ci può essere anche, perché mi viene il dubbio, 4 watt su un amplificatore a valvole non sono tanti alla fine, però la saturazione può venire anche al momento in cui c'è un disaccordo. Il disaccordo tu puoi averlo avendo tutti quegli spezzoni collegati e soprattutto tra amplificatore e commutatore d'antenna che non è diretto. Ok, quindi lì ci può essere un disaccordo. Dovresti rifare la prova diretto, baracchino e lineare, diretto. Se non satura devi eliminare il commutatore d'antenna. Vabbè, ma a questo punto non mi va bene uguale, perché ti ripeto, metto un 747, cose che ho già e non mi difetta, non fa niente, questo qua è così, non mi serve Kratos, capito? Mi serve diretto, non va bene, non mi serve a me. Perché tu cambi, come c'ho io ho la T230, che fa la commutazione operatore d'antenna, da rosmetro, da wattimetro, da accordatore, capito? Io il 440, il 430 e il baracchino ce li ho collegati lì, quindi ho tre posizioni di antenna, diretto, riflesso e tre ne uso, non ne posso attaccare quattro, proprio per non avere questi commutatori ad alta perdita, capito? Un avere uno strumento professionale della Kenwood come la T230 che fa anche da commutatore come la T250 eccetera, e lì mi uso il 430, il 440 e un baracchino e basta, capito? Vabbè, effettivamente è così, ti serve commutare, ti serve fare. Comunque se vuoi conoscente Massimiliano glielo dici, perché lui quelle prove lì le ha sempre fatte assieme a Gigi. C'è un trimerino nel 48 dove abbassi i watt addirittura sino a un watt, da un watt sino a 10 watt. A me me l'ha portato a 8, ma lo voleva far fare a 10, ho detto no, mettimelo a 8 perché così sono tranquillo che gli amplificatori che io, che sono a MOSFET, vanno bene, capito? Tutto qua. Sì, poi slancio il mic a Giulio. Sì, ma io queste radio qua le ho fatte preparare tempo fa proprio per poter utilizzare un amplificatore in macchina, e allora è stata fatta una modifica di watt che fa da mezzo watt con picchi positivi sino a 18-20 watt modulati, ove non va a far soffrire l'amplificatore. Essendo due diversi apparecchi, uno me l'ha fatto differente, l'altro me l'ha fatto con in partenza un watt e picco massimo 15, e ho usato quello che era meno potente, diciamo, dai. Però sicuramente con il watt va tende a andare oltre. Sì, amplificatore a valvole purtroppo è così. Io ne ho avuto esperienza, e anche il BV131, per dire che è un amplificatorino del cacchio, basta che tu le dai poco più di 3 watt e inizia a saturare con qualsiasi tipo di baracchino, tutto lì. Vabbè, comunque quella si può fare, la modifica te la fai, e se no le lasci gli stessi watt, 4 watt, ne metti un 747 che allo finale ha a MOSFET e vedrai che hai risolto il problema. Vai Giulio. Certo, ma può essere anche quello che stavi dicendo tu o Tino, il fatto che sia stato appreso da LC, tu ricordati che la radio si trasforma in un watt, poi si trasforma quando è aperta, e dunque può essere quello il fatto che poi è stata un pochino compressa, e può essere proprio quello, perché uno è uscire con una radio normale, poi tu mi insegni che quando tu dirai più radio ci sono anche più watt in uscita, ci sono, questo è il contatto. Poi c'è ancora un'altra cosa da dire, essendo amministratore di lineare a valvole, dietro ci dovrebbe essere una specie di trimmerino, ci dovrebbe essere, può essere che sia quello in disaccordo con l'antenna, perché alle volte l'impedenza del lineare non è perfettamente in sonda con quello dell'antenna, o meglio del baracchino stesso, non so se ce l'ha quello, ma di solito i lineari a valvole c'è un trimmerino dietro, o nel pannello dietro, o poi fai girare, non lo so, non lo so questo, perché non ho... finché male toglie adesso da dentro e controllare, fare, ti ripeto, è una cosa che devo fare solo esclusivamente con lui e solo per lui, quindi dovrei attaccare gli strumenti e vedere un pochino, come ha detto Claudio, passare il watt, verificare un pochino, magari anche utilizzare questo trimerino che sei giunto. No, non lo fa, non lo so Giulio. Quando sono in compagnia con una persona che magari ci attende un pochino più di me, magari vediamo un pochino di metterci le mani sopra e valutiamo. Giustamente ci vuole sempre un altro dall'altra parte che confermi la qualità del segnale e della radio, soprattutto della radio che vada in porto, diciamo. Dai. Va bene, già, riprendi, dai. Ok, già lo sapete, quando dovete fare cose di questo genere, vabbè, non ci sono problemi, io sto in ascolto, quindi no problem. Se dovete smanettare ancora, ditelo, no, no, non ci sono problemi per me. Quindi tutto ok. Avanti Cla. No, ma figurati, cioè qua dobbiamo tutti capire e sapere, soprattutto conoscere queste cose, perché l'esperienza ce l'abbiamo fatta nel vedere anche gli altri come manovrano le cose. E lì il 48 è un ottimo baracchino che ti consente la regolazione dei watt interni, però a Tino non le serve questo. Conviene lasciarlo così, le metti 747, sei sicuro che non va da nessuna parte. I suoi 80 watt te li dà e con 4 watt, però avendo lo stadio finale a MOSFET non va in saturazione. È anche vero quello che ha detto praticamente Giulio. Lineare a valvole hanno sempre una regolazione sull'ingresso sulla nudica della valvola, quindi probabile pure che la tensione che stanno erogando quelle valvole sia un pochino scarsa, quindi ti va in saturazione quando entra in tensione. Quindi può darsi pure che le valvole siano da sostituire, magari non te lo fa più. Ok, per meglio dire, Tino, quando hai 5 minuti lo lasci staccato, che non sia carico di tensione, ti puli le valvole, te le pulisci bene con la trilina, ok, o con l'alcol puro, però devono essere belle lucide, e poi le ripiazzi, perché se la valvola è sporca, se si crea quella patina ruvida che appunto è condensa, è sporcizia eccetera, la valvola non lavora bene, la valvola deve essere sempre pulita, in ordine. Va bene, non l'ho mai aperto, ce l'ho un sacco di anni, insomma, ce l'ho qualche anno, ma lo tengo perché è un valvolare che dovrebbe erogare intorno ai 380, ma ne sta parlando 280, quindi, però è inutile averne tanti e la Ferrari non riesce a camminare. Ragion per cui un amplificatore che eroga circa 500 watt e te ne sta erogando 100 watt in meno, c'è un problema di tensione di valvola, o per meglio dire la valvola già mezzo andata, e quello far sì che non erogando la sua tensione originale o tutta la tensione che deve erogare, inizia ad andare in disaccordo tra l'accoppiamento delle valvole stesse, e quindi ti può creare anche questo problema che è così chiamato da noi CB disaccordo, ma può essere anche solo tra lineare e baracchino un disaccordo. Giulio, cosa dici? Beh certo, le valvole sono una cosa molto ma molto delicata, se c'è un qualcosa che non è proprio giusta, perfetta, si può creare dei problemi, ed è anche difficile anche da stabilire, tra l'altro, una cosa del genere. Però diciamo che tutte le prove si devono fare, ovviamente, prima o poi già si viene a capo di questo particolare. Però, se, come stava dicendo lui, che quando parlava andava a 18 watt o quanto era, col microfono, vuol dire che quel microfono è troppo forte rispetto al coso, perché non, perché per quanto ne so io, la radio quando è alterata, per così dire, è aumentata così, e i decibel si trasformano in watt, e dunque i watt sono praticamente troppo in ingresso, questo è più che normale. Allora, Claudio, per informazione, Mila 1-0, Piontek ha segnato, vai Gianni. Ok, aggiornamento calcio minuto per minuto. Datemi 2 minuti che vado a recuperare un paio di cuffie, ok? Avanti Cla. Sì, ma non avevo dubbi, Milan riceve il Deggio a Udinese, e passa pure all'Inter, c'è a fare dei buffi. Ha avuto questo qua con Donnarumma, se no la Sampdoria non vinceva, tutti dire. Era una partita 0-0 quella, un punto se lo prendeva al Milan. Va bene, detto ciò ragazzi, mia moglie è già la terza volta che mi chiama, sì, lo sai che la stavo preparando, devo condirle a chi arrivi, Bippo Franco la Boise in casa, chi non venuto a mangiare, capito? Io lo so, si sta la facendo la voce, sta per arrivare sicuramente, già capito chi no? Per rompi palle di mio genere. Ok, dai, io vi saluto, un abbraccio a tutti, grazie veramente delle due chiacchiere della serata trascorsa, un saluto circolare anche a chi è in ascolto sul canale 10. Vi lascio perché devo preparare qualcosa in cucina, se no altrimenti non si mangia, che fra un po' arriva il boss qua e si bolla la boia che ho venuto a mangiare per la tricca e ballacchi. Va bene, ciao a tutti, ci sentiamo alle prossime. Giulio, Gianni, Tino e chiunque fosse in agguato, a te il microfono. Giulio. Ok, ciao, grazie a te per la chiacchierata, dai, ci sentiamo domani e speriamo bene per tardi, ma almeno inizia la partita comunque della Juve, speriamo bene, vabbè, una formazione rimaneggiata, comunque le speranze sono le ultime a morire, ci mancherebbe. Ciao, ciao, alle prossime. Vai Gianni. Gianni è andato a prendere le cuffie. Va bene, ciao, dai, grazie di tutto. Poi quando sono un po' più in forma e ho voglia di fare un po' di tutto, faremo altre cose, dai. Adesso è tardi, poi è venerdì, sabato, partita, quindi adesso vediamo. Va bene, anche io ne approfitto, ora che ho il mic, ma a spostarmi, perché anche io devo fare cosa, non dico in cucina, ma nei paraggi. E quindi ne approfitto a salutare. Ti rilancio il mic, Claudio, per i saluti e poi vado via, dai. Ok, ciao, ciao Tino. Alle prossime, grazie anche a te per la chiacchierata, dai. La prossima volta, se è necessario, faremo ancora delle prove, così ti farai sentire se hai riuscito a rimediare questo fatto. Perché è un peccato, perché è un segnale, ragazzi, da così bello, così ampio, con una radio leggermente inclinata, non sarebbe bello. Comunque, sono convinto che riuscirai a rimediare anche quella inconvenienza lì. Vediamo, forse se è arrivato Gianni, e anch'io chiudo intanto. Gianni, sei arrivato? Scappa, ne approfitto, visto che più o meno stiamo andando via tutti a cenare, seguo a ruota anch'io, quindi un salutone a tutti, circolare, Claudio, Tino, Giulio, Massimiliano e chiunque sul 10. Una buona cena, un buon proseguimento, rilancio a te Giulio per i saluti. Ok, ciao, ciao Gianni, alle prossime, dai, a domani sera eventualmente, ci sentiamo, grazie ancora per la chiacchierata a tutti, te compreso ovviamente, e ci sentiamo prossimamente, ciao, chiudo anch'io. Ciao, ciao. Ciao Giulio.